È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Qui sono matti, caro Parenzo, io è da ieri sera che sono incazzato come una bestia, dopo aver visto... Strano. No, ma l'ho ripetuto anche ieri e lo voglio ripetere oggi forte. Sul sito del governo c'è questa indicazione per i cittadini, sì, italiani, sì. Dopo anni e anni di studi, anni e anni di studi, noi ci troviamo di fronte a un governo che mette sul suo sito, invita i cittadini a indicare dove sono gli sprechi. Ci sono alti funzionari dello Stato, ministri, super tecnici, e vogliono da noi, e lo dico ai cittadini di Bergamo che sono qui e ringrazio, buonasera. Applaudono anche. Vogliono da noi che indichiamo gli sprechi. Allora io invito, ci sono tre possibilità che avete secondo me. Uno, andare sul sito, fare due clic, sito del governo.it, poi c'è scritto spending review, non si capisce perché in inglese, sì, spending, comunque, review. Spending review, poi all'interno c'è una specie di modulo da compilare, nome, cognome, email, indirizzo, compilatelo tutto, poi a un certo punto c'è oggetto, indicazione, consigli sui tagli, poi ci sono tre possibilità, me le sono appuntate, naturalmente le ho perse ma dovrei ricordarle a memoria. Una è andate a fare in culo. Beh, subito, vabbè, subito. No, la prima è questa, sì. La seconda è, sì, vergognatevi. La terza, sì, chiamate Oscar Giannino e fatevi dire tutto, perché insomma non c'è altra possibilità. Va bene, allora in... Ma chi le hanno dato da mangiare? Aspetta, sono avvelenato oggi, sì. Monti che dice, sì, i ministri non hanno tempo. Ed è per questo, i ministri non hanno tempo e dunque hanno scelto i super tecnici. In particolare Bondi, una persona bravissima, super tecnico, una persona super splendida, una persona che ha risanato la Parma, una persona che usciva con la Panda. Hai letto oggi i giornali? No, naturalmente, sì, certo. Ma, come ma usciva, dopo aver risanato la Parmalat, usciva con la Panda, con una piccola Panda. E chi se ne frega? No, è una persona anche molto sobria, insomma ha dato giù belle legnate alle aziende per risanarle, però insomma non c'è bisogno, Monti. Trovo molto ma molto superficiale la osservazione che è stata fatta, ma come i tecnici chiamano altri tecnici? I ministri sono già abbastanza impegnati nel loro lavoro, non possono avere una attività a tempo pieno quasi come avrà il dottor Bondi per occuparsi dei singoli ministeri. I ministri non hanno tempo per occuparsi dei tagli, di dove tagliare. Io dico, le spiegazioni sono peggio. In state Veneto si dice peggio il taccon del buso. Ma caro, qui siamo Pugeri. A Bergamo. Vabbè, ho capito. Però. Ti voglio ricordare. Allora, ancora spiegazioni. Catricalà. Sor Catricalà, certo. Che dice, Bondi fa le cose che i ministri non possono fare, pure lui. Non si capisce per quale motivo, comunque. Questa del tecnico che chiama l'amico tecnico è però veramente risibile e ci dispiace che arrivi anche dalla maggioranza che sostiene il governo. In realtà il lavoro che il dottor Bondi è stato chiamato a fare non è assolutamente un lavoro che può fare un ministro, un sottosegretario, non è un'attività di governo, è un'attività di gestione. Lui è stato chiamato a determinare i livelli di spesa delle pubbliche amministrazioni. Sfumiamo, fatemi sfumare. Ma perché ha sfumato il ministro? Ho sfumato perché stava dicendo cose inutili. Amato è un altro campione del mondo, 31.000 euro di pensione e poi non vuole nemmeno rispondere. Sono bravissimo a non parlare, inseguito da Agora. No, io l'ho inseguito qualche mese fa. Sì, lo so, per la pensione non ha risposto, ma non risponde mai su nulla, comunque. Super tecnico tra i tecnici. Ma come farà a far risparmiare tutti questi soldi agli italiani? Buoni, tanto oggi non ho nulla da dire, quindi non dirò nulla. Vabbè, ma ce l'avrà una ricetta, no? Io sono bravissimo a non dire nulla. È vero che prende 31.000 euro al mese di pensione? No, non è vero. Vabbè, dottor... Crosetto, Guido Crosetto, PDL, mettere Amato ai tagli è come mettere Erode all'Unicef. Questo è un po' esagerato, insomma, Erode all'Unicef, comunque, via. Mettere Amato a fare i tagli ai partiti è come mettere Erode all'Unicef o Dracula all'Avis, ecco, con tutto il rispetto. Adesso Dracula all'Avis. Anche Crosetto ultimamente si è, noi scatenato. Piace molto, anche per questo si è scatenato in queste metafore un po' leghiste, e un po' di grillo ci vuole anche oggi, no? un po' di grillo, un grillo, se non c'è un grillo al giorno non siamo contenti. Chi ha mandato a far culo oggi? No, Amato, lo stesso Amato. Sentiamo. Facile. La politica ha abbandonato, ha messo i tecnici, i super tecnici, adesso abbiamo i super tecnici. Questo Amato viene qua e fa la lotta agli sprechi, uno che prende 32.000 euro di pensione al mese. Ma è pazzesco, è l'unico tesoriere che ha fatto carriera a lui mentre il capo è scomparso, che era Craxi, al contrario dei tesorieri di questi partiti. Però credo che Amato non sia mai stato tesoriere vero e proprio, no, del Partito Socialista, no. Era un leader politico, non un tesoriere. Quello che elaborò la strategia su Sigonella, come lei ricorderà. Adesso cominci a fare le tue solite tecnicamente le tue da solite grande cose. Leguleio, beh, solito. Vabbè, che sentiamo ancora? Che c'è da sentire? C'è qualcos'altro di interessante? Sempre Grillo, va. Io Forcaiolo, Maroni azzannava i polpacci. Sempre la solita storia si dice su Maroni, però, eh? Che azzannava i polpacci nella famosa irruzione, sì, della, a Via Bellerio, della polizia, non mi ricordo di chi, dei carabinieri alla Via Bellerio della Lega. Si dice sempre e solo quello. Quello lì che zanna bianca, parlo di Maroni, che ha detto che io sono un forcaiolo, mi mancava questo epiteto. Me l'ha detto uno che in una rissa ha morsicato il polpaccio di un alpino, che è stato... Cazzo, sono gli alpini che si mettono gli stivali di tiraniera quando lo vedo. Forcaiolo a me, quando la... chi è che in Parlamento esponeva il cappio, io o la Lega? Però in realtà la Lega è quella che se l'è presa di meno con Grillo, anzi spesso ha delle posizioni simili a quelle di Grillo. Ora naturalmente noi scherziamo, siamo una trasmissione che prende in giro, che gioca, non solo questo naturalmente, però succedono delle cose gravi anche a Bergamo, dove siamo in queste ore, con una persona barricata dentro una sede di Equitalia. Voglio leggervi quello che scrive Mario Secchi, direttore del Tempo, perché racchiude un po' tutto. I sindaci non vogliono l'IMU, uno col fucile si barrica nell'agenzia delle entrate, bonzi nelle strade, tranquilli, sono solo problemi tecnici. 800 24 00 24, siamo al centro Porsche di Bergamo, buonasera ancora, eccoci qui. Allora, siamo con Giorgio Iannone, PDL, deputato qui di Bergamo. Buonasera onorevole. Buonasera, buonasera. 435.000 euro all'anno. E beh, che è un delitto guadagnare, no, così tanto. Amico, ho detto che era l'Andrangheta, ho detto solo la dichiarazione. Iniziamo bene, iniziamo bene. Ma perché? Senta, però lei è stato nominato il deputato più sexy del Parlamento. No. Sì. Il deputato più sexy del Parlamento. È vero o no? Via internet c'è stato un sondaggio, ha avuto un discreto successo, non solo io, anche tanti altri colleghi. Sì. Ma lei perché piace alle donne e anche agli uomini in modo bipartisan, o sono soprattutto le donne che io adesso sono un uomo sono un uomo sposato e amo tantissimo anche tutti... è vero anche quello, sono un uomo sposato, amo tantissimo mia moglie, sì, e soprattutto mia figlia, sì, che ha un anno, quindi però sono non faccio queste professioni, mettiamo un po' di musica da chiesa comunque per tutt'altro. Poi quando uno... sono un buon peccatore, devo dire, sono stato nella mia vita un ottimo peccatore, non è l'unico nel suo partito, eh? No, ci siamo divertiti tantissimo, chiedo scusa se torno sempre anche in Parlamento, comunque anche in Parlamento, che vuol dire ci siamo divertiti anche in Parlamento, dico, ci sono stati corteggiamenti, dicevamo prima, ci siamo divertiti, sì, certo, cioè in che senso, scusi, vi divertite? No, ci siamo divertiti, dico, ci si diverte anche lì, cioè anche là un luogo di lavoro, ci mancherebbe altro che non ci fossero corteggiamenti di cose, di piano bar, che è uno senso, no, posto dove si rimorchia, i pianisti ci sono, questo è interessante, però, si rimorchia o no in Parlamento? Sì, questo è un gran tema, gran tema, è molto interessante secondo me. A me è capitato di rimorchiare. Ah sì? Veramente? Questa è una buona relazione. Sì, sì. Iannone, due punti. Mi è capitato questo di prima di sposarsi, lei. Prima di sposarmi, ovviamente, sì. Perché dopo non c'è... Ah, ce l'ha avuto una liaison con una leader dell'opposizione, magari? No, leader magari no. No, sono uscite sui giornali le notizie, per cui non c'è niente di segreto. Comunque ci sono state delle amicizie, certamente, anche in Parlamento. Ah, lei è stato fidanzato con una deputata, no? Ha avuto una liaison, una storia. Diciamo liaison più... Una storia, ma non ce la ricordiamo questa, come mai non ce la ricordiamo? Strano, noi siamo sempre interessati a queste strozzate. Ah, siamo interessati solo a questo, no? La spending review ci interessa molto poco. Come mai non è? Diciamo che si può fare il nome di questa gentile fanciulla? Beh, è uscito sui giornali. È uscito su tutto, lei ha detto che è uscito. Mi hanno attribuito, lungi da me dire che sia vero. Sì, che sia vero, no? Delle liaison con alcune deputate. Ah, delle addirittura? Delle con deputate. Ma siete fatti tutti uguali in quel partito, amico mio. Sì, sì, è un partito in cui sicuramente ci si diverte. È un po' la casa della libertà, ognuno fa quello che cazzo gli allora, pare. Il Parlamento è un luogo di lavoro. Di lavoro. Però, come tutti i luoghi di un consesso umano in cui ci si trova numerosi, infatti, non c'è dubbio. Ovviamente troppi, si ha, anche. Troppi, certamente, perché sono 1.000 persone, sono sicuramente troppe per il Paese. Ci si trova anche di sera, ci sono anche dei momenti di convivialità. Ci mancherebbe altro. ma un po' come sui banchi di scuola, no? Che un po' come sui banchi di scuola. Ma questo è buono, questo, come sui banchi di scuola, dunque c'è grande. Sì, ma perché io vorrei smitizzare, cioè il Parlamento non è né un luogo dove ci sono tutti i ladroni, né un luogo dove ci sono tutte persone seriose o stupide, è un luogo in cui ci sono persone che vengono che hanno diverse esperienze di vita, che si trovano per lavorare o dovrebbero trovarsi per lavorare, aggiungo come in un college, come in un grande college. Ma nei college si fa l'amore nei bagni anche. Sì, sì. E quindi anche alla Camera si fa l'amore. C'era un deputato famoso per i bagni del Parlamento, no? Che era Vittorio, mio amico Vittorio Sgarbi, certamente si è divertito anche nei bagni. Ah, in bagno? Sì, sì. Fa parte. A lei è mai capitato nei bagni della Camera? Molto bello. Tra l'altro non ce lo direbbe. Non ce lo direbbe mai. No, ma anche se fosse non ce lo direbbe. Ma neanche un bacio. Però ha fatto un occhio. Ha fatto, voi non lo potete sentire, non lo potete vedere anzi. Ho baciato nei bagni della Camera. Possiamo dire, perché bisogna smitizzare il palazzo. Ho dato un bacio nei bagni della Camera. Bisogna smitizzarlo in tutti. No, non ho dato nessun bacio nei bagni della Camera, sennò voi partite con l'agenzia. No, che agenzia. L'Anza oggi sta pensando a quello che è successo a Bergamo. Esatto, ma le pare che il nostro amico il grande direttore dell'Anza. Poi io non conto nulla, per cui, però voglio dirvi: io vorrei smitizzare, vorrei smitizzare davvero il Parlamento in tutti i sensi. È un luogo come tanti gli altri in cui, lo sentivo prima dell'ironia, in cui ci sono tante persone per cui ci si conosce. Una specie di grande cosa. È come stare su American Pie, praticamente. Dai, non esageriamo. Un po' così. Non esageriamo. Quante sono state? 2, 3? Facciamo un conto definitivo. Prima di sposarmi ha avuto una storia con 3 deputati. Sono un uomo sposato, per cui è un passato. Tanto che l'avrà detto, l'avrà detto moglie, lo saprà sua moglie. No, assolutamente. Non lo sa? No, dico, è passato. Senta, ma lei che è stato nominato la persona più sexy del Parlamento in un sondaggio, invece la parlamentare più sexy, dato che mi sa che lei se ne intende molto di queste cose. Mi piacciono le donne, credo che non c'è dubbio. Gli uomini, mai. Ma no, mai, nel senso che io sono eterosessuale, rispetto assolutamente i gay, non io conosco solo persone, non conosco gay eterosessuali. Bravo. Facciamo un applauso finalmente dopo tanti omofobi passati per la zanzara, una persona ma se nel 2012 qualcuno parla ancora di gay con settarismo e con supponenza, siamo veramente alla follia. I gay ci sono ovviamente anche in Parlamento, come in tutti i consessi. Nessuno fa coming out, ce n'è una sola dichiarata. No, beh, ce ne sono credo più di uno. C'era Grillini, che era prima, adesso oggi che c'è la Concia, che credo sia la Concia, basta. Basta nel suo partito, perché nessuno fa coming out? Chiedetelo ai diretti interessati, ma certamente ce ne sono, no? Ce ne sono nel PDL, sicuramente ce ne sono. Ce ne sono in Parlamento, adesso essendo giovane, uno che in Parlamento non ho mai approfondito il tema, perché proprio non mi interessa, considero le persone in quanto tali. Non sto a chiedere l'attitudine sessuale. Però è strano che nessuno faccia coming out. È strano ed è sbagliato, secondo me, perché siamo arrivati a un punto in cui queste differenziazioni nel mondo del calcio, del Parlamento, dell'industria non hanno alcun senso di esistere. E comunque nel PDL ci sono, sicuramente al Parlamento ci sono, anche nel gruppo del PDL. Nel Parlamento certamente ci sono. Sì. Anche nel gruppo del PDL. Ripeto, non lo so, non ho mai fatto statistiche a riguardo. Traffico, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Finiamo sempre a parlare degli omosessuali, come mai? Siamo malati? Fissati, abbiamo una fissazione, c'è sempre qualcosa. Vabbè, può servire, dai, è un tema che può comunque essere. Ma secondo me sì, però uno mi attaccano sempre, siete fissati sugli omosessuali. Ma anche lei ce l'ha sempre in testa, no? No, però io credo che sia veramente il momento di dare una svolta importante. Mi è piaciuto molto Prandelli, che ha detto che anche nel mondo del calcio ci dovrebbe essere qualche dichiarazione pubblica. Così chiudiamo questo argomento, smitizziamo anche che tutti sono macio e finisce il discorso una volta per tutte. Siamo tutti matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi. Comunque ragazzi, secondo me siamo di nuovo in diretta con la Zanzara, secondo me l'intercettazione principe che sto ascoltando in questi giorni sul sito di Repubblica. Cattivone. No, non è quella. No. Noi che le saccheggiamo, anche se lo facciamo per ridere, non dovremmo in teoria prendere là i pezzetti, però che ma che si mette a fare la morale dopo che le abbiamo usate? Sì, no, scorticate, eccezionate. Ogni tanto mi pento, tanto dico, ma stiamo facendo bene o stiamo facendo male? Comunque le mettiamo dei piccoli pezzetti. Il top resta sempre questa, quella che ascoltiamo fra poco. È quella del Love of My Life, perché insomma a te ti hanno mai chiamato Love of My Life? A me, ma mai in visto, inglese. Ma mai qualcuno visto che ti chiama, che ti dice ma Love. Ma mai visto in faccia a me? Vabbè, ma qualcuno ce l'avrei avuto ogni tanto pure tu, no? No, sono sempre stato. Vabbè, bistrattato. Sentiamo. Pronto? Love of My Life? Allora. È il top. Ma scusi un attimo una cosa, onorevole Iannone, lei che fa parte dello stesso partito, che non c'entra niente in questo caso, a lei l'hanno mai chiamata Love of My Life? È bellissimo, uno che ti chiama dice Love of My Life. Voglio metterlo nella anche con una certa, come dire, no, con un certo ritmo. In italiano magari, amore della mia vita è più comune. Però è diverso, Love of My Life. No, così no, devo dire che anche una certa intonazione cantarinante che è simpatica. Lei l'ha conosciuta la signora Minetti? No, l'ho vista tante volte in molte occasioni, ma non ci conosciamo peccato, direttamente. No, penso. È diventata consigliere regionale quando io ero già sposato, per cui mai è diventata consigliere regionale? Cioè, da queste intercettazioni non si capisce come mai è diventata consigliere regionale. O si capisce benissimo. O si capisce benissimo. Secondo lei. Mi dicono però che sia anche abbastanza brava tecnicamente. Poi sulla radio tecnicamente mi aspetto. Ho sbagliato io. Ma lei ce l'ha molla lì proprio, però. Scusi, lei dice io lo voglio, prima di venire qua ha detto adesso mi uccidete eccetera, io sono preparatissimo, ve le metto tutte e lì. Cade così ve su questa cosa qui, è molto preparata tecnicamente, ve le metto io. Vabbè. Senta una cosa, io però sono abbastanza arrabbiato con lei, perché lei ancora conserva quei, io insisto su questo, sarò fissato, quei 5 maledetti pass per transitare gratis al centro di Milano sulla corsia preferenziale, no. Non solo al centro, eppure può pure parcheggiare dove vuole. No, leggenda, come leggenda, leggenda? C'è no. Scritto su Repubblica 5 pass. Ma io ho parlato con il giornalista di Repubblica che non ha avuto la correttezza di correggere. Allora, il pass di Milano, poi se vogliamo, sì. Non è giusto avere il pass di Milano. E perché lei ce l'ha allora? Perché io faccio avanti dietro con Milano ed è un diritto, ed è uno dei diritti, dei privilegi che vanno aboliti, così come sono io dei deputati. Certo, infatti. Il pass di Milano vengono rinnovati di anno in anno. E sul pass di Milano, e quindi c'è lei semplicemente, non ce l'ha più. Semplicemente ce l'ho ancora. E sul pass di Milano semplicemente c'è scritto di anno in anno, e ne ho avuto uno dopo un anno, totale di 5. Vabbè, non 5 pass. Ce l'ho. Perché non rinuncia? Perché è conveniente? Beh, perché è comodo, diciamo. Perché è comodo, è utile e per me. Cioè, va a Milano preferenziale, poi parcheggia dove gli pare. In realtà, quelli come me di Bergamo, purtroppo, che devono andare a Roma tutte le settimane, purtroppo devono andare a Linate, quindi lo usiamo solo per quello. Ovviamente è un privilegio. Per andare a Linate non ci sono le preferenziali, quindi in realtà non si usa mai. Però quello si potrebbe anche rinunciare, no? Cioè, oppure è una cosa. Ma lo restituirà quindi lei domani? No. Non lo restituisci. Io sono sincero, dico no, nel senso che se lo restituisci perché mi invitate voi a restituirlo, sarà incoerente col mio pregresso. Possiamo abbracciare, guardi, la coerenza. Io voglio abbracciare perché la abbracciamo. No, ma non si capisce niente con i microfoni. Ma siete... No, perché ha ragione. Perché no, non è perché i giornalisti hanno le 10 domande di Repubblica, le 10 domande della Zanzara. Lui dice: me ne fotto, il pass lo tengo, vado a fare la spesa con la macchina dove mi pare. Ritengo che questo sia un privilegio, con tutti i privilegi si opinabile, ma che non sia un privilegio che nuoce ad alcuno, nel senso che siccome noi andiamo avanti e indietro al consiglio regionale, fate gli ingorghi sulle preferenziali, potreste fare gli ingorghi se tutti quanti avessero quel pass. È vero che sono 4.000 anche giornalisti, però ricordiamolo, no, certo, allora facciamo una cosa, io non lo restituisco però mi faccio parte attiva, facciamo in questo modo, arriviamo a un compromesso, non lo restituisco però mi faccio parte attiva perché venga tolto questo privilegio, va bene così? Ci proviamo. Senta, lei è stato protagonista una volta di una simpatica conversazione con una vigilessa romana. Simpatica conversazione. Le disse a questa vigilessa romana, essendo transitato con la macchina in Piazza di Spagna. La fermo subito perché su questa cosa ho querelato il giornale che lei sta citando. No, quel giornale. Che è il Messaggero. Perché ho querelato perché non è assolutamente vero. Dunque. Io sono stato fermato da due vigilesse, non da una, a Roma. Sì. Dopo circa 45 minuti di fermo, effettivamente mi sono un po' innervosito. Lei ha detto, quindi ho chiesto scusa per questa cosa. Però, ecco, sinceramente sono rimasto 45 minuti bloccato in una città e lo ritengo una cosa tuttora non... Era Piazza di Spagna con la macquina, sulle scalinate così. Una strada. Che dovevo fare? Una strada adiacente. Uno va a Piazza di Spagna, si vede. Comunque, quello che ha scritto il Messaggero è totalmente scorretto. Cioè, lei non sa chi sono io, chiamo il sindaco, mi faccio licenziare, mai detto. Fatto. Assolutamente il Messaggero è stato querelato per queste cose. Io sono un parlamentare e mi state facendo perdere tempo. Il Messaggero è stato querelato per queste cose. Non quereli pure me che sto riportando quello che è uscito sul Messaggero. Vabbè, allora che ha detto? Questa vigilessa, perché poi ho detto con tono sbagliato, per questo ho chiesto scusa, che era un po' di tempo che ero lì e che francamente dovevo andare a votare, se poteva rilasciarmi, visto che era uno stato di fermo che sembrava un po' eccessivo. Io ho sbagliato, cioè mi hanno sequestrato per 45 minuti più o meno, ho detto così con toni anche poco civili, per cui ho chiesto scusa. Penso sia capitato a quasi tutti di arrabbiarsi con i poveri addetti alla polizia municipale, con cioè non ha fatto valere il suo status, colpa mia, quindi ho chiesto scusa. Sia chiaro però che di ogni singola parola detta a sproposito da parte di un giornale, il giornale risponderà nelle sedi opportune. Hai capito? Qual è la Messaggero? Però attraverso il Messaggero ha chiesto scusa lei, voi, a questa vigilessa. No. Il Messaggero, molto scorrettamente, perché estrapolerei la posizione della vigilessa, per cui ho sbagliato io. Il Messaggero, molto scorrettamente, io ho chiesto scusa pubblicamente comprando un'inserzione sul Messaggero, e il Messaggero molto scorrettamente ha usato quell'inserzione per fare un articolo, cosa che deontologicamente è molto borderline. E ha scritto un articolo. Scusa, loro hanno scritto un articolo. Esattamente. Sul fatto che e il Messaggero non ha sentito né me né la vigilessa, e ha fatto un articolo. Per questo risponderà in tribunale. Hanno incassato i soldi e in più hanno fatto questo. Questo ne risponderà in tribunale. Perché su queste cose, francamente, io. Se le frasi sono accetto vere, no, tutte le critiche sui privilegi, però quando si pubblicano le dichiarazioni senza sentire diretto interessato, lo ritengo ritengo molto, molto scortese e inopportuno. Senta, per concludere voglio capire una cosa, ma lei essendo il parlamentare più sexy, chi è invece quella più sexy in Parlamento? Rosy Bindi. No, vabbè, adesso. Oh, Rosy Bindi intanto, che viene tanto denigrata per la sua mancata bellezza, diciamo, sì, così, è una persona invece che ha nell'eloquio, nel modo di ragionare, nel modo di porsi, una sua intelligenza notevole. Sì, sì, sì, sì. Però è donna affascinante. Più? No, non è affascinante, ma il fascino non sta solo nella bellezza, Sgarbi, io credo. No, Berlusconi dice più. Io rispetto Rosy Bindi perché, pur avendo delle posizioni diametralmente opposte spesso rispetto alle mie, è una persona intelligente. Vabbè, la più affascinante chi è? Quella che lei dice, entra in Parlamento. Ripeto, io sono un uomo sposato, non guardo più le parlamentari. No, ce ne sono diversi di parlamentari carine. La maggior parte, casualmente, sono nel PDL. Ah, casualmente. Casualmente sono del PDL. Bene, giornale, sì. radio, grazie a Iannone di essere stato con noi. Giorgio Iannone, PDL, grazie, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Siamo qui sempre in diretta da Bergamo, buonasera a tutti. Ciao, 800 24 00 24, grande accoglienza qui a Bergamo, e con noi un altro ospite che fra poco presenteremo. Intanto si abitua, anche se è abituato, perché è un grande ascoltatore della Zanzara, Antonio Natali, direttore degli Uffizi, 1780 euro al mese. Maria Grazia Bernardini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Antica, 1765 euro al mese. Ma che stai leggendo? Basta trote, basta Minetti, a casa! Ma di chi stai parlando? Scusa, è stato un momento di follia, scusami. Vabbè, no, ma è possibile che il direttore degli Uffizi prenda 1780 euro al mese e il signor Trota ne prendeva 10.000? Ma cosa scelta? Sono due cose diverse. Ti sembra possibile? Vabbè. Cose senza senso di Parenzo, no, titoli del TG3. Il direttore degli Uffizi, titoli del TG3. Tu lo stai dicendo perché oggi è stato scoperto, forse, perché poi le notizie bisogna sempre controllarle, che tra le carte della Lega ci sarebbe anche un diploma di laurea dove in Albania, in gestione aziendale, no? In gestione aziendale per Renzo Bossi. Forse pagata questa laurea con i soldi della Lega, forse sì, forse dunque con i soldi nostri. Antonio Natali, direttore Uffizi. Ma dove è venuta questa cosa oggi? Ho studiato. Ma dove è venuta? Ho studiato dossier oggi. Se tu me lo dicevi prima, ti avrei detto lascia perdere, non fa ridere nessuno, è una stronzata. Ma non è che non fa ridere, è una notizia. Titoli del TG3. Non tutto deve far ridere. Titoli del TG3, fammi mettere ordine un po', fammi mettere ordine. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sono senza soldi, mi uccido, barricato da ore in una serie Equitalia nel Bergamasco con un ostaggio, 32, gli imprenditori suicidi nel 2012. Ancora uno stop per la riforma del finanziamento dei partiti, non c'è ancora l'intesa nella maggioranza, tutto rinviato a dopo il voto amministrativo. Napolitano, momento difficile, partiti e istituzioni rigerino la loro immagine, Draghi, tagliare le spese senza alzare le tasse, bene Monti sul risanamento. Chiesto l'arresto di Lusi, l'accusa saccheggiate le casse della Margherita, prese anche 30.000 euro per il suo matrimonio, Casini, voterò per l'arresto. Spunta dalla cassaforte nel fascicolo Family una laurea conseguita da Renzo Bossi in Albania, si sospetta che sia stata pagata con i soldi della Lega. Andreotti in ospedale in codice rosso per una crisi respiratoria, non è in pericolo e fa battute con i medici, assicura la segretaria. Per il calcio i giorni più bui, risse in campo, cori razzisti, prepotenze dei tifosi e ora l'allenatore che picchia un suo calciatore, Dario Rossi, squalificato per 3 mesi. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti. Padania bella e libera, guardava avanti. Io vorrei mettere servi per di Roma introdurre fuori, questa parte. Ma lasciala, mi metti di buon umore. Servi di Roma fuori, voglio cantare la mia figlia. Servi di Roma fuori. Sai chi è l'autore? Sai chi è l'autore? Chi è l'autore? Più grande cantante vivente. C'è un'interferenza. Sergio Borsato. Sergio Borsato. C'è un'interferenza. Qualcuno ci ha suggerito dall'esterno che è Sergio Borsato. No, lo sapevo perché ce l'avevo scritto, solo che era nelle carte, non lo trovavo. E Bossi, errori, figli in politica. Anzi no, prima faremo le primarie. E primarie già introdotte dalla Padania con una sorta di tagliando. Di tagliando pubblicato sulla Padania, scegliete voi il leader della Lega. Beh, insomma, non è però un'iniziativa malvagia, no? Trionferà Maroni, secondo me. Trionferà Maroni, però sentiamo Bossi. La militanza dirà chi vuole, dirà chi deve presentarsi. Però fare le primarie. Beh, le primarie in bocca a Bossi sono una cosa un po' strana. Sono un partito che si definiva leninista, qualcuno ha detto da noi l'altro giorno, il senatore Castelli, addirittura sovietico, poi si è corretto in leninista, e, insomma, che addirittura apre alle primarie. Ci sono un po' di contraddizioni in questo periodo. Ecco, noi Daniele Belotti, buonasera. Buonasera. Chi buonasera. Non salta? Chi, come si chiama? No. Chi non salta? Vici, no, vero? No. Ce ne sono tante. C'è un elenco per noi atalantini di chi non salta che non finisce più. E qual è più. Il primo? Il nemico principale dell'Atalanta? Beh, bresciano. Quindi possiamo fare un bel coro, chi non salta bresciano, un bresciano. Poi però ci sono dentro i laziali, sì, c'è il signor Cruciani, per i meno informati il signore qui presente è un laziale doc, e domenica assolutamente c'è l'Atalanta Lazio, vi dimenticate la Champions League. Ma no, ma già ce la siamo dimenticata prima comunque. Io proprio voglio ricordare dei 30.000 euro che il signor Lusi avrebbe pagato allo chef per il suo matrimonio. Sì, questo è importante, perché non sono soldi, come disse Bossi, che uno può prendere e buttare dalla finestra, perché quello fu un errore clamoroso. È una frase, vero, vero Belotti, che fu vero. Beh, però questo qua lei è uno della Lega che ogni tanto dice delle cose anche contro Bossi. Ma Belotti è un uomo libero, io le cose le dico. Uno può dire questi sono soldi che noi possiamo buttare anche dalla finestra. No, sono soldi miei, suoi, delle persone che stanno qui. E se uno ha speso come Lusi 30.000 euro, perché poi non è che c'è solo la Lega, certo, a usare magari in maniera impropria soldi, soldi pubblici, cioè soldi nostri. Signor Lusi avrebbe preso 30.000 euro e nessuno lo controllava, questo è lo scandalo. Per cosa? Per pagare lo chef del suo matrimonio. Ma se si è sposato, poverino, scusa. 30.000 euro quanti erano a mangiare? Ma no, ma 30.000 euro no, perché ma neanche che... il super matrimonio dello Iannone ha speso ste cifre. Va bene, va bene, andiamo a sentire qualche ascoltatore. Anzi no, prima c'è da aggiungere qualcosa sulla Lega, eh. C'è Maroni, primaria iniziativa positiva, vabbè, ma questo qua è scontato. Bossi, errori, figli in politica. Questa è una cosa che ripeto ormai come un mantra, come una sorta di mantra. Senti, fatemi sentire questo, fateci sentire. Poi un altro errore che io ho fatto grande, dire di sì ai miei figli quando volevano entrare nella Lega. Loro l'hanno fatto per aiutarmi, pensavo di aiutarmi. I miei figli sono cresciuti venendo a tutte le feste della Lega, e quindi fin da bambini per loro la Lega è massima. Vabbè, a me, io non so, poi abbiamo tempo con Belotti, però a me queste qua sembrano voci un po' dal passato. Cioè, se la Lega resta appesa a questa voce di Bossi, che per carità c'è il carisma, c'è Bossi, quello che è stato, eccetera, secondo me è morta, come dice Grillo, se resta appesa a questa voce è morta. No, detta così no. Ora, Bossi rappresenta l'icona della Lega, sì. E sicuramente a lui dobbiamo tutto, perché se abbiamo fatto la strada che abbiamo fatto, solo merito suo. Lo dobbiamo, sì, è solo merito suo. Ha sbagliato perché, a ricandidarsi adesso, per esempio. Perché nei primi anni 80, la metà degli anni 80, nessuno si sognava di poter parlare di autonomia, di federalismo. Però questo è il passato, bisogna dire, o no? Bossi è il passato, lo dica. Io dico una cosa, che per fare il capo della Lega, il segretario della Lega, ci vuole anche una grande energia. E lui perché non è un partito di zombie o di gente da salotto, o di, partito... di trote, di zombie o di pesci, diciamo. Guarda, così. Se mi tiri fuori quella roba qua, io quando ho letto questa storia qui dell'Albania mi è venuto in mente una cosa che più che una trota è un pesce sega. Perché? Perché? Perché? Cioè, ma perché? Renzo Bossi pesce sega. No, ma perché c'è un'ossessione per la carta, anche per il titolo di studio. Ma che io prima... o no? Ma io ho detto, ma che cazzo te ne frega te di avere una laurea che poi nel momento in cui in Albania tu poi dovessi, amico mio, ma solo io che te lo dico, nel momento in cui tu vai a presentare in un posto di lavoro, sì, sì, qualsiasi, ti chiedono, mi presenti il curriculum, sì, e ti metti su laureato in Albania. L'Albania. Ma cioè, si mettono a ridere. Si mettono ma a ridere. Ma il problema è che forse ma in più per quello che dico. Ma uno che si chiama Bossi, ma te lo dico io che sono cresciuto nella Lega, e ti presenti con su laurea in Albania, sei sputato come davvero. No, ci mette anche in imbarazzo, non lo so, magari è andato a Durazzo. Ora, se sei laureato a Perché non è Padania l'Albania, no, per capire, no, non è Padania. Cioè, almeno, no. C'è solo una città che a me piace andare a vedere, che è Durazzo, perché? Per diversi perché? Motivi. Perché? Perché Durazzo fa rima con... Ah, perché... So. Vabbè, ma questa... Ragazzi, siete un po' indietro. Come siamo indietro? Fa Durazzo, ce l'ha duro, e io dovrei capire questa cosa qua come una genialata. A Belotti. Si è laureato a Durazzo, si è laureato a Durazzo. Solo la Lega si laurea a Durazzo. Ma non capisci un cazzo. A Durazzo. Perché a Durazzo... Cioè, va a finire che vi ritrovate con Parenzo, capito? No, però, scusi, pesce, però perché pesce sega? Pesce d'aprile. Ma perché non puoi, cioè, adesso non puoi farti una psicosi della laurea? Io sono un umile ragioniere, sì. No, che sono andato a ragioneria a differenza di Iannone. Che ma perché nega... ce l'ha con Iannone? Non vorrebbe Iannone. Che adesso... perché è un amico. A partire dal passato Iannone, cioè a mezz'ora fa di trasmissione. Iannone che adesso sì. È uscito probabilmente ad ascoltare. Che è l'onorevole, ma chi ci ascolta? C'è l'onorevole Giorgio Iannone che era sì, qua ospite sì, prima, sì, che sì. È preoccupato che sui giornali escano le sue avventure, quindi... detto, mettete bene che io ho detto che amo mia moglie e sì, mia figlia sì, sì. Cose, cioè, come dire, io i giornali sono interessatissimi io, al fatto sì. Che lui ama molto sua moglie. Siamo a Radio, Radio nego, Harmony io ormai. Non nego, in un periodo in cui tutti cercano sta laurea, chi che va sì. A Cipro, chi va in Guatemala, chi va a Malta, nei posti sì. Più disperati, chi in Albania, per carità. Rosimauro dove che andava? Forse dove? Somia, forse. Ma quello è il diploma, era il diploma. Somia che sono, non so, non vabbè, so. Vabbè, traduca l'albergamasco all'italiano, io perché qui ci ascolta il telegiornale. È una radio nazionale questa, se io ve lo faccio anche a Palermo, il sì, telegiornale in bergamasco, quindi sì. Ogni tanto mi scappa. Non so dove l'ha presa, ho visto che lo spergiuro, come si chiama il suo sì, come cosa, no, spergiuro spergiuro è un'altra cosa, no, come Pier Moscagiuri, Pier Moscagiuri. Pier Moscagiuri. Ma è vero che era avevano una tresca oppure ma non si è mai chiarito, so chi se ne frega no, fatti loro, non è, però io Belciuffo, invece non somiglia lei a Moscagiuri sì, no, Pier Moscagiuri per cosa? No, un po' questo ciuffo così, no, perché è considerato sto cercando di tappare il buco che mi sta crescendo qua in mezzo. Ora sto inventando ogni vabbè, tipo insomma, di riporto in cui tutti cercano la laurea ecco, cioè, io invece se tiene il bel diploma di ragioneria, io sono un umile ragioniere che è andato a ragioneria perché era pieno di donne e me ne vanto pure, come era pieno di donne? Ragioneria è pieno di donne, cioè lei la scelta l'ha fatta per quello? Ma come, ma quando mai era pieno anche di donne ragioneria? Scusa, dove le trovi? All'istituto tecnico? No, io al liceo classico, classico dove noi eravamo pieni di donne al liceo classico. Io sono uno umile, non posso andare al classico, come? Io sono uno terra terra. Ma guarda che al classico c'erano un sacco di gente operai, del popolo, anzi erano anche i più bravi. Beh, di noi, un covo di comunisti come voi. No, ma i comunisti, io sono mai stato comunista in vita mia. Ma io sì, guardi che io per difendere il diritto a scuola, quando facevo il Virgilio a scuola a Roma, per difendere il diritto a parlare delle poche, dei sparuti fascisti che erano lì, di destra, fascisti o di destra, quello che ne ho preso una mano. Ma ne ho prese proprio mi hanno corcato, come si diceva a Roma all'epoca. Va bene, però io voglio farvi ascoltare una cosa eccezionale. Ma signor Belotti, abbiamo detto a chi ci ascolta da tutta che Italia, assessore regionale in Lombardia, al territorio, ma che Lombardia. È lo speaker ufficiale di Pontida, no? Ecco, mi dica come introduce sì. Pontida, con quale ardore, però lo deve fare bene. Vengono giù le vetrine se mi metto a fare. Beh, lo facci. Lo facci? No, quello è un altro però. Lo fa. No, una cosa, com'è che introduce Pontida sì. Lei? Come lo introduce Pontida? Cioè, sentiamo. Un minuto di presentazione. È presente come presentano le squadre all'Olimpico? Sì. E ora? Che la pompano. E ora è con io noi. Vado oltre. Vado, ce lo faccio sentire un attimo. Moderato, lo faccio sentire. Ma bisogna avvisare a chi è in macchina adesso sì. Di abbassare l'audio. Allora, perché altrimenti... cari ascoltatori che state tornando dal lavoro dopo una giornata stressante. O che siete non avete a casa con le vostre fidanzate, le vostre mogli, i vostri amici, abbassate la radio. Abbassate un attimo la radio. Lo speaker di Pontida Mettetevi in testa comunque sì. Come sottofondo Braveheart. Sì. Ma forse lo possiamo fare dalla regia. Beh, scusa, lo facciamo ma così. Che cazzo è Radio Padania questa? Ma non ho capito, Radio 24. Vabbè, sentiamo. Aspetta, no, lei la borsa così la facciamo Braveheart. Braveheart. La borsa è importante. La borsa è molto importante. La borsa è molto importante. Siamo qui, grazie a Bergamo di averci accolto così bene oggi qui al Centro Porsche per la nostra solita puntata in tour 800 24 00 24. Tra poco anche gli ascoltatori. Mi ha scritto Massimo Ciancimino. Che ti ha detto? Dice: ma perché vuoi riportare ogni volta quello che ti scrive Ciancimino? Magari ti scrive delle cose che vuole tenere riservate e chi se ne frega. Diffondi urbi mi ha scritto torti, grande amico di Massimo Belotti, Ciancimino. Ora vi do anche il numero 33 dunque va bene, continuiamo inermi, scrive signor Ciancimino, ad assistere alla fuga dei migliori cervelli verso i paesi esteri. Anche il Trota è andato a laurearsi in Albania, peccato, la Lega aveva già investito 3 milioni di euro per il corso di specializzazione in Tanzania. cioè il figlio di Don Vito Ciancimino, il signor Massimo Ciancimino, pure lui prende per rifondare il signor Trota, il signor Ciancimino. Vabbè. Va bene, no comment, no? No comment, ne avremmo, ne avremmo da dire a sto Ciancimino. No, come, perché? Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, su, ha introdotto un altro, un altro discorso. Era attinente a quello di cui stava parlando. Andiamo invece a sentire due cose eccezionali. Devo dire che ieri sera ero un po' frastornato, c'era questa voce che veniva da lontano, non si sentiva molto bene, della signora Maristel Polanco, una delle Papi Girls, ogni tanto vengono fuori di nuovo. L'abbiamo avuta al telefono alle 8:30, però se n'è uscita con delle chicche che voglio farvi ricordare, perché a un certo punto dice: io sto girando un film sul Bunga Bunga in 3D. Io ho chiesto: scusa, è un film porno? No, ma perché uno deve pensare al film porno? Chissà perché. Sentiamo. È il 3D. No, adesso farò il film del Bunga Bunga io, quindi in 3D. Adesso fa il film del Bunga Bunga in 3D. Ma perché porno, scusa? Ma perché vai la tua mente va così lontano, così? Cioè, che c'entra? Naturalmente hanno tagliato le mie domande, come è normale che sia, e comunque questa era la Polanco. C'è un altro passaggio, a un certo punto il meraviglioso Abate, Fulvio Abate dice: scusi, ma lei farebbe, non so perché gliel'ha chiesto, girerebbe un film con Nanni Moretti? Sentite la risposta. Vuole fare un film con Moretti? Io? Chi è Moretti? Chi è Moretti è stupendo, chi... una divinità assoluta. Questa ammissione di ignoranza su Moretti riscatta pienamente la signora Polanco. Scusa, giusto. La birra, non lo so. Ha pensato la birra, Moretti. Ha pensato Moretti, la birra. Moretti con doppia T o Moretti? Bene, bene, bene, bene. Andiamo a sentire qualche ascoltatore da Napoli. Voglio sentire da Napoli. Ah, bello, Alfredo, scontro, Alfredo. Scontro Napoli-Bergamo. Perché scontro? Nessuno scontro. Scontro, scontro. Alfredo, dica. Buonasera. Su. Buonasera, sì. Senta, io volevo fare una considerazione sul fatto che il governo ha messo sul sito la possibilità di dire dove stanno gli sprechi. Sì, non c'è nessuna considerazione che può fare. Non mi dica che ha fatto bene, perché mi arrabbio, eh. No, non è che ha fatto bene, no, volevo fare solo una considerazione, non è una questione di fare bene o fare male. Io ho la sensazione che il problema dietro è solo sempre politica e i politici, cioè il governo, per rafforzare certi tagli che la politica non vuole fare, ho la sensazione che sta costruendo una specie di consenso popolare per togliere delle cose che altrimenti troverebbero ostacolo, tipo le province, le auto blu e tutto il resto dietro. Guardi, cioè, non lo so, questa è una cosa, non ho la minima idea. Il punto fondamentale è che questa iniziativa è un'iniziativa demagogica, un'iniziativa che non serve assolutamente a nulla, ed è quello che un governo tecnico non deve fare, cioè chiedere consigli ai cittadini. Il governo tecnico è lì per decidere, prendere decisioni nel più breve tempo possibile, e poi se sono tecnici già dovrebbero sapere, oppure dovrebbero avere gli strumenti per sapere. Dunque tagliassero dove bisogna tagliare e non ci rompano le scatole con queste stupidaggini online che uno scrive bisogna tagliare quello, che poi la maggior parte delle cose si trasforma in una sorta di delazione, perché quello dirà il consigliere comunale non va, non firma il cartellino, il no, eccetera. Ma di che parliamo? Ecco, appunto, meno male. Guarda, sentite questa qua di Buttiglione, che è uno di quelli che appoggia il governo tecnico. Rocco? Sì, Buttiglione su Amato, a me fa impazzire questa cosa. Amato che cosa può fare? Può fornire idee e proposte. Ma ci sono già sui partiti, idee e proposte. Giuliano Amato, meno male che lo fa gratis, pensa se lo pagavano. Lo fa gratis? Sì, beh, 30.000 euro al mese. Per turno meno di pensione se lo pagano, anch'io vado con i forconi. 31.000 al mese di pensione. Cioè, ti giuro, io non ho mai fatto una manifestazione in vita mia. Se pagavano Giuliano Amato, andavo con i forconi, me lo facevo prestare da quelli dei forconi siciliani e andavo sotto la casa di Giuliano Amato. Sentiamo Buttiglione. Io spero che aiuti a fare una buona legge sui partiti, che la Costituzione prevede come possibile, che deve essere fatta dal Parlamento, è ovvio, non la può fare Giuliano Amato, ma Giuliano Amato è persona che può fornire idee e proposte su cui poi i partiti si confrontano. Amato può fornire proposte su cui i partiti si confrontano. Campa cavallo. Andiamo a Alessandro da Bergamo, qui da Bergamo. Buonasera. Perché non è venuto qua anziché telefonare? Scusa. Vabbè, c'era gli affari suoi, sarà a casa. Ma uno è normale, uno sta a Bergamo, telefona, oddio, e noi siamo qui. Vabbè, è una forma di maleducazione. Comunque. Vabbè, le ha dato il maleducato. Alessandro, su. Ma sì, è a Bergamo, telefona e non viene qui. Fallo parlare. Alessandro è sparito. Starà venendo qui probabilmente. Alessandro, no? Quello che ha detto è più due legnate. Alessandro non c'è più. Marco da Biella, benissimo. Vabbè, rimanga a casa sua. Sì, Cruciani, Marco, pronto? Sì. Sì. Eccoci qui. Cruciani, buonasera. Allora, buonasera. Io volevo fare alcune considerazioni. Uno per quanto riguarda la... Pronto, mi sente? Sì, la senta. Adesso ecco, iniziamo la segnalazione agli sprechi. Allora, io condivido l'aspetto demagogico del governo. Ma sono arrivate 40.000 segnalazioni, da quello che leggo qua. No, 40.000. Però, effettivamente 40.000. È una cosa assurda che un governo. La maggior parte chiedere... saranno. Mio cugino è andato lì che fa il consigliere indipendente comunale. Mio cugino si alza tardi la mattina. Quell'altro non mette il bollo. La suocera che è assunto così sarà. Tutto così. No, no, è assurdo. Però io volevo fare un però, secondo me, che a livello provinciale, a livello regionale, effettivamente ci sono degli sprechi che forse in maniera più capillare potrebbero andare segnalati. Le faccio un esempio. Io, ma segnalati da chi? Se lei li segnala, evidentemente già li sa, ma la gente che deve sapere le cose, quelle vere, no. Quelle. Ma c'è Striscia la Notizia, poi ne vogliamo parlare che il governo fa come Striscia la Notizia? Prendesse da Striscia la Notizia le cose. Ci sono 200 milioni di sprechi. È una cosa ridicola. Lo fa benissimo Striscia la Notizia questa cosa qua. La prendono tutte le cose di Striscia la Notizia e iniziassero, no? Cruciani, mi scusi, però è anche ridicolo che Striscia la Notizia mette in evidenza delle cose dove dovrebbe essere o la Polizia di Stato o la magistratura o tante cose, per cui ci sta che comunque, voglio dire, a livello, diciamo, in maniera più di dettaglio, non so, nel Piemonte c'è un esubero di rotonde, si fanno rotonde in tutti gli incroci oppure si fanno dei parcheggi. La stronzata su. Capisco che poi si arriva a queste cose qui, uno può scrivere al governo perché in Piemonte ci sono troppe rotonde, divento pazzo. Amico mio. Ha capito che cosa si riduce questa cosa qua? Che uno scrive in Piemonte fanno troppe rotonde, Bonanno ha messo troppi cartelli coi vigili con la forma dei maroni, quell'altro è tutto così. Belotti, dica che vuole dire. Possiamo anche considerare 40.000 segnalazioni. Sì. Fatto un calcolo veloce, ammettiamo che ognuno ci mette 3 minuti tra leggerla. Farsi la sigaretta, perché siamo a Roma qua, quindi solo Roma fuma, adesso non perché, esageri, perché però, a Bergamo non fumano, no, capito. Non è che fumano, ma insomma. C'è un po' più di tenacia nel lavoro. Lei immagina il funzionario. Questo è il vecchio stereotipo. Sono della Lega, quindi lo devo fare. Lei dice la stronzata la devi dire per forza. una cosa quindi, banale la devi dire per forza. Esatto. 40.000. Se uno se ne legge, ci voglio con 3 minuti a leggerne uno, ho fatto un calcolo, ci vogliono circa 2000 ore. Chi lo fa? Giada. Adesso assumono, magari assumono altro personale per leggersi quelle mail. No, quello non quindi credo. Taglio gli sprechi. No, però è vero, la domanda non è la questione che pone. Quindi cos'è? Solo una questione di immagine, poi chi le legge quella roba? Belotti. Allora, siamo con Daniele Belotti, che è consigliere regionale, no, anzi assessore regionale, meglio, oltre che essere consigliere, naturalmente, in Lombardia eletto, della Lega, Maroniano? Maroniano o Calderoliano? Perché qualcuno dice che lei è calderoliano in realtà. No, io sono leghista, vabbè, d'accordo, questo adesso mi piace Maroni e sono uno che conosce Calderoli da più di 20 anni. Dunque calderoliano, insomma, questa è la realtà. No. Sono uno che conosce e stima Calderoli, ma devo dire che mi piace Maroni. Ma sai che io ancora non mi capacito di una cosa, perché forse non lo conosco personalmente. Però come si fa a essere calderoliani? Non lo so, è una cosa di cui non mi capacito. No, effettivamente è difficile da immaginarsi, no, uno che dice, io sono per Calderoli, è un po' difficile, ha ragione, signor Cruciani. Sì. No, nel senso che è complicato, forse è una questione di immagine, dovrebbe curare meglio la sua immagine. La sua attuale compagna, la signora Gancia, proprio qui da noi, disse una cosa che mi ha fatto un po' morire dalle risate, ho pensato per una settimana anche di notte. Ci pensavo, perché ha detto, lui si veste malissimo, pensi che ha scelto un sarto cieco. Ci si vede. sarto cieco. Su questo contesto, perché Calderoli... si veste bene, no? Allora, io sono uno che se si veste bene Calderoli, Gesù è morto dal freddo, Io sono uno che il fatto di vestiti è veramente uno straccio. Si vede, insomma. Sì, sono qua con le scarpe così. Vabbè, comunque sì. Me ne frega niente, non gliene frega niente. Vive in curva, vado in curva, eccetera. Però Calderoli da 15 giorni a questa parte, io porto per obbligo la giacca in consiglio regionale, perché per forza, dice lei, perché hanno obbligato a mettere la giacca, e la cosa bella della regione è che uno andava là come voleva. Poi stanno inquisendo tutti, però obbligano a mettere la giacca, questo mi sembra una cosa io giusta, l'unica giacca che ho ce l'ho tirolese. Ci sono 9 inquisiti, però e Calderoli da 15 giorni porta una bellissima giacca tirolese, quindi contesto il fatto che si vesta male. Giacca tirolese è una follia agghiacciante, diciamo. Uno la può mettere in montagna così. A cortina incontra la camera, tu hai in mente i calzoncini alla zuavola? Anche li mette, alle volte li mette, quelli l'ho visto a Pontida. La giacca tirolese è una, signori miei, è un capo nostrano, un capo alpino. Ho capito, va bene qua nelle montagne di Bergamo per andare in vacanza, ma non per portarsi alla alla Camera addirittura per fare i consigli dei ministri. Comunque, qui abbiamo Daniele Belotti, che è l'unico al mondo che dice che Calderoli, ma nemmeno la sua compagna lo dice, che Calderoli si veste bene. E che vuole fare? Non è calderoliano fino in fondo. D'inverno, d'estate. D'estate? Con i pantaloni, con le Bermuda senza calze. Ma sono anche i colori ogni tanto, sa? Sì, sono anche i colori. In effetti, mi sa che c'è. Però d'inverno ha il suo perché. D'estate. Ha il suo perché. Brevard me lo mettete, innanzitutto, perché eravamo rimasti a Brevard. Perché Belotti, per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, assessore regionale in Lombardia, ultras dell'Atalanta, è speaker di Pontida, cioè quello che apre. Il gran cerimoniere, possiamo dire così, il gran cerimoniere di Pontida. Me la mettono la nostra canzone, c'è o non c'è? Eccola qua, eccola. Ecco, c'è. Eccola che morta. Sento fermi tutti, musica. un minuto. No, la riduco, che dice dai. Bossi in questo caso? Quando sento questa musica mi viene durazzo, mi viene. Mi viene molto durazzo. No. Vabbè, scusate. Come sei uscito? Beh, adesso sta storia Albania, chissà quanto dura. Adesso pure gliela serviamo su un piatto d'argento proprio. Sì. Beh, allora sto breve. No, allora vai, avviso vai. Gli ascoltatori a abbassare un attimo l'audio. Abbassiamo un attimo l'audio. Quando è che esplode qui Braveheart? No, vabbè, non è qua, però va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Ha svegliato un popolo oppresso e smarrito. Ci ha dato un ideale in cui credere. Ha scritto la storia del nostro popolo. Lui è l'erede di Alberto da Giussano. Lui è la nostra guida. Lui è il nostro condottiero. Lui è il nostro capo. Popolo di Pontida, salutiamo tutti insieme col cuore il segretario federale Umberto e Bossi. Tutti. Oh. Lega, Lega, Lega, Lega. E vabbè, questa vabbè. Era la versione ridotta. Questa era la versione ridotta vera, per la zanzara. E ad esempio Calderoli, come lo presenta lei, signor Calderoli? Ci faccio una presentazione di Calderoli. Vabbè, andiamo a Bergamo. Adesso Alessandro, c'è o non c'è? No, sto Alessandro. C'è? Eccoci qua, ma Alessandro. Ma dov'è? Vabbè. Eccoci qua. Buonasera. Dov'è? Non ci butti giù, stavamo ridendo con questa voce, tum, ci dà una mazzata pazzesca. No. Niente, volevo solo sottolineare la dimensione dei leghisti. Ma cosa fa? Lava i piatti, anche c'è un rumore sotto. Pronto? Sì, Alessandro, che dice? Vada, forza, animo! Volevo solo sottolineare la dimensione dei leghisti, anche la dimensione del governo che gli permette di governare. C'è insieme, no? C'è un paese civile come l'Italia, sì. non deve Bergamo, non ho capito molto. È un casino Bergamo. Pronto? Sì, no, vada, continui. Per carità, però. Continui pure. Un paese civile non deve essere una cosa del genere. Quale perché cosa del genere? Non abbiamo capito. Ma manca il soggetto, il verbo, tutto, ma non si capisce. Cioè, loro usano questa. Non è di Bergamo, però. L'accento non è di Bergamo, io lo capisco veramente. Vabbè, se non faccio il razzista. No, ma io ho radar sugli accenti, ti capisco anche quello della Val Serena, Val Brembana, della Bassa, eccetera. Ma questo. Lei di dov'è, Alessandro? Perché lui è Belotti, è uno che vuole sapere questa cosa. Di Bergamo, Alessandro? Di Bergamo. Sì, ma di, originario di dove? Di Bergamo. Ah, di Bergamo. Sì, vabbè. Di Bergamo. Dove è nato? Sono nato a Bergamo. No, magari è naturale, magari vabbè, sì. Ma non c'è niente di strano. Di famiglia, dire. Di famiglia no, migrante. Sono nato a Bergamo, però sono sempre vissuto a Roma. Ah, ma di lei di dov'è? Di origine italiano o no? No. Nato a Bergamo. Ecco. Però va bene lo stesso, noi no qui. Beh, anzi, allora io l'abbraccio. Albanese per caso? No. No, laureato? Nordafricano. Questa è buona. Nord-africano. Vabbè, Alessandro, adesso io la abbraccio. Non ci faccio due palle così. Mi dica che cosa, qual è il punto? Il punto è che io vorrei proporre una guarigione per questi leghisti, di confinarli. Una guarigione. Questo è bello. Una guarigione, confinarli. Da che cosa? Da quale malattia? Da quale malattia? Del razzismo. Del razzismo. Siamo alle solite cose. Buona serata Alessandro, grazie. Paolo da Pesaro, buonasera signor Paolo. Buonasera. Sì, vada. Accettate da un affezionato ascoltatore un'amichevole critica? Ma lei può fare tutte le critiche che vuole. Sì, bene, dunque, si tratta di questo, siccome dunque l'omosessualità pare che sia l'argomento di rigore ogni sera. Ma veramente non ne parliamo da tre quarti d'ora, però se lei la vuole introdurre come argomento, per carità, ritorniamo anche su questa cosa qui. Cioè, da tre quarti d'ora non ne sentivo la mancanza, però va bene. Da un punto di vista forse un po' diverso. Io noto una certa contraddizione tra il fatto che da un lato tutti fanno a gara, voi compresi, voi per primi, a dire che per carità l'orientamento sessuale non ha nessuna importanza, che le persone si giudicano per quello che sono e quella è una cosa del tutto privata che non interessa. D'altra parte si nota e perfino ci si rammarica un po' che pochissimi abbiano fatto, come si dice, outing o coming out, non so quale cosa sia meglio, e questo fatto, ma questo significa identificare gli omosessuali come qualcosa di diverso che deve denunciarsi. No, ma denunciarsi, lei dice siccome non ci sono i coming out, c'è una difficoltà di fare i coming out, significa che sono diversi. Ma lei è completamente pazzo, cioè Paolo, cioè tecnicamente pazzo. Ora rammaricate che non faccio il coming out. Ora ma fare non mi rammarico, significa creare una distinzione, una barriera, quella ma che a parole viene dal, quindi vuol dire da scusi una adesso però lei mi ha dato lo spunto per chiedere una cosa, perché Belotti è considerato una sorta di onorevole, comunque un assessore, vabbè, onorevole, si chiamano onorevoli in Lombardia, no. No, in Sicilia, vabbè, insomma, un leghista ultra, perché molto tifoso dell'Atalanta, è stato in curva tanti anni, poi ha un po' rotto 35. Non ho rotto con i tifosi più estremi, però no. Ma no, ero a cena l'altra sera. Ah sì? Con quelli accusati di delle peggiori nefandezze. Accusati. Beh, c'è gente accusata di avere minacciato, eccetera, Io sono cresciuto lì. C'è 35... lei col signor Boccia è andato a cena pure l'altra sera. Ma c'erano 400 persone. Ma sono persone accusate di cose gravissime. Sì, associazione, concorso esterno. No, lei concorso esterno in associazione a delinquere. Sì. Ma che cazzo ha combinato? Associazione a delinquere. Lui è associazione delinquere. Ma io non dico ma che cosa sia ha combinato, vero, no. Belotti? Ma perché va a cena con gli ultra? Belotti, perché va a cena con gli ultra? Non è bello andare a cena con... Ma a cena con qualche intellettuale, non no. so. Come... Allora, precisiamo. Vada a cena con Vittorio Feltri. Sì, che è un ultra peggio di me. Vado a cena con Feltri, è molto meglio che andare a cena col signor Boccia. Allora, no, precisiamo. Era una cena di 400 persone per fare una raccolta fondi per un ragazzo che... Ma quello va bene, che c'entra? No, quindi sono i famigerati ultra dell'Atalanta. Fanno tante di quelle iniziative di beneficenza o di passione... Sono bravi ragazzi. Molto bravi. Bravi ragazzi. Sì. Al massimo fanno qualche rissa, una volta. Spaccano qualche testa. Ma anche i tuoi amici laziali. Ma che c'entra? Mi dica che vado io in curva, abbia pazienza, che c'entra? Io lo sto dicendo, io però non è che frequento. Io ho fatto persone. Di quelle trasferte a Roma. Perché... Sì, botte da oggi. Che ha fatto? Le ha preso lei, lei quante volte lei ha tirato sassi diciamo la verità, no, ha tirato sassi botte no. Sì però botte sì. Trovato in mezzo a casini sì botte ha dato botte. Io da quando io assessore regionale ho dato botte alla polizia, ma può succedere anche da lei mi ha tirato una molla, che cazzo gli frega Belotti? Lasciami spiegare, io da quando ho 8 anni che giro l'Italia e fortunatamente qualche volta anche l'Europa a seguito dell'Atalanta. L'Atalanta. Sì. Quindi se in 35 pure. Anni di esperienza ne ho visti tutti i colori. Quindi... Le ha date qualche volta. Ma sono uno che è così, dove vuoi chiedere? Ma che c'entra? Per tirare un sasso non è che bisogna essere grossi, cioè per tirare un sasso e tirare una moto. No, quello no. Ma lei però... Io però ero un organizzatore, trasferte, fotografie. Era dietro il cattivo maestro. Era dietro le quinte. Toni Negri dell'Atalanta. Toni Negri dell'Atalanta. Possiamo dire così, io il Toni Negri dell'Atalanta. Sono accusato di concorso. Sono su quella ragione. Devo dire la verità, lei è come Cuffaro. No, perché visto che Cuffaro è in galera, però storia, io infatti non glielo auguro. Visto però, che costa si tocchia carne, tabù momento. Visto sta che buono significa. Sì, ho capito, sono veneto, però. Sì, è veneto, dai, cioè l'origine. Lei è accusato di concorso esterno in associazione a delinquere, che è una cosa francamente ridicola. Io sono l'unico, visto che sta storia dei 10 indagati in Regione Lombardia. Continuiamo a sentirla. Perfino Crozza è venuto qua a fare uno spettacolo, ha fatto l'elenco, ma anche messo dentro nel suo spettacolo. Beh, contento lei, citato da Crozza. Quindi sono l'unico assessore nella storia con delega ai rifiuti, fra l'altro, che non è una roba da poco. Ma che c'entra quello? È l'unico assessore? L'unico assessore nella storia, tra l'altro, con delega ai rifiuti, che non è indagato perché ha preso tangenti o altre cose, perché è troppo tifoso. Quindi, io ho indagato perché è troppo tifoso. Sì. Però mi dica la verità: nel passato lei una bella bastonata, un poliziotto l'ha data. Io sono sicuro che qualcosa ha fatto. Belotti, è impossibile. dai poliziotti, sì, beh, nei casini, però qualche botta con un altro tifoso l'avrà fatto, una bella rissa di queste qua da giovane, mica adesso, no, mica, è tutto prescritto, tutto scusa, è tutto prescritto, tranquillo, guarda, non si preoccupa, ho anche, tutto ormai... ho anche scritto un libro sulla storia dei tifosi Atalanta, quindi... No, ma lei, voglio sapere, io, cioè la cosa è... io mi sono trovato in mezzo a un'infinità di risse, un'infinità di risse, sì. Cioè, le persone che lei proprio non poteva vedere, appena vedeva un tifoso avversario che proprio voleva, la prima cosa che pensava è questo, lo voglio ammazzare, lo corco, che era uno dei laziali, Brescia. I laziali come sì, te. il Brescia no. Più i laziali o i bresciani? Ma con i bresciani sono state robe forti. No, ti dico che le trasferte, sì, che ho vissuto a Roma negli anni 80 regionale, sono state veramente pesanti. Pesantissime. Lei non porta più la maglietta dell'Atalanta al consiglio regionale, no? Mi hanno vietato di portarla, ma ce l'ho nel cuore. Io, ce l'ha nel cuore. Ah, l'avevo vietato di portarla. Hanno vietato. Sì, beh, giusto, comunque, torniamo, perché con la cosa io non ho assolutamente nessun problema a dire. Sì, sono indagato. Sì. Ho lo stesso reato di Cuffaro e di altri. Vabbè, quello è mafioso. Cuffaro è concorso esterno in associazione a delinquere con la mafia, è cosa nostra. Mafioso, sì. Io, con tutto rispetto, con gli ultra dell'Atalanta. Che... quindi, cioè, quindi lui ha a che fare scusi, sempre con delinquenti, sono Zagaria e Totò Riina, sono dei delinquenti matricolati, tra gli ultra sono delinquenti matricolati, con tutto rispetto, io il col Daspo, Boccia e il Gigi Lucertola e il baffo, ho capito, ma se il baffo spacca la faccia a un poliziotto sempre un violento rimane, no? Ragazzi, il baffo, allora, certo, uno fa il giardiniere, l'altro fa l'impresario, ma che c'è, che fa se gli spacca la faccia, ma sempre dai, la faccia gli ha spaccato, ma è una roba ridicola quella lì. Va bene, fra poco riprenderemo 800 24 00 24, qui no, siccome si è parlato di ultra, ma qui c'è la questione Bossi, la Padania, però prima quella lì che canta Padania, quella è bellissima, prima la pubblicità, assolutamente sacra. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti, Padania bella e libera, guardavano avanti. Immagini, ma l'ha pagato i diritti sia per quella roba, noi paghiamo tutti, servi di Roma fuori, ma lei si immagina, non so, un dirigente di Confindustria, no, sulla Marcegaglia, che in quest'ora è in macchina, ascolta, dice, vediamo cosa succede nella mia radio, e sente Padania, guarda, una cosa meravigliosa, ma cazzo, nella radio 24. Va bene, siamo qui a Zanzara, grazie Bergamo, 800 24 00 24 ci ha raggiunto Vittorio Feltri, buonasera. Come la mia, che scusi, in che senso? Sono i film della Fene che Gloria Guida. Vabbè, io non è che mi fermo a quello, abbia pazienza, cioè non è che mi fermo a quello, però effettivamente. Scusa, quanti anni hai? Beh, 45. Siamo quasi alla stessa età, quindi non dirmi che non sei cresciuto su quelli. Senta, mi dica la verità, lei se incontrasse il signor Doni per strada, che cosa farebbe? Doni, per chi non lo sapesse, storico capitano dell'Atalanta che ha confessato. Lo sanno tutti. No, vabbè, ma non è che questi lo sanno, le persone che sono qui lo sanno, le tantissime persone che ci stanno ascoltando, forse no. Comunque, bisogna sempre ricordarlo. Io sono stato, insieme all'onorevole Stucchi, l'unica persona al di fuori dell'ambiente carcerario che l'ha visto in carcere. E vabbè, è questo. No, lo dico perché è stato questo prima che confessasse, il giorno prima. Perché è stato veramente un colpo al cuore vedere il tuo idolo ridotto, veramente era uno straccio. Ma è vero che non può uscire da casa a Bergamo, che è complicato per lui uscire da casa e sta cercando casa fuori da Bergamo? Insomma, se lei lo incontrasse per strada, come ha fatto quando era giovane, una bella... no? Lo corcherebbe di botte per quello che ha fatto. No, io sono della teoria, dimentichiamolo. Dimentichiamolo. Sì. È come... cioè, seppelliamolo vivo. È ancora peggio di corcarlo di botte. È come quando ti lasci una fidanzata. Hai due possibilità. Sì. O vai là tutti i giorni a fare una testa così e ti fai male, o la dimentichi. Continui e guardi avanti. Dimenticare Doni. Sì. Moltissimi tifosi hanno adottato questa strategia. Cioè, Doni per noi rappresentava veramente l'idolo assoluto. Quasi più di Bossi. Beh, io ho il cuore diviso in due, metà è verde e metà è nero azzurro. Ah, così. Io ho passato la vigilia di Natale con Doni arrestato. La vigilia di Pasqua col casino della Lega. Che quest'anno si vuole ammazzare. No, sono preoccupato da Pentecoste. Non so che arrivi qualcosa non ancora. Spunti qualche altra laurea da qualche parte, che sono in Maghreb magari. Quindi, no? In effetti. Doni, meno tanti così hanno dolori. Adottato questa linea. Effettivamente sono dolori, perché comunque per rappresentare. No, esageriamo cosa? Che laziale sei, scusa. Ma che non mi importa. Cioè, per lei questo è un tema centrale. Arrestano mezza giunta della Lombardia, no. Per lei quello di Toni è un problema centrale. Allora, no, vedi, ma chiedi, mando la visita di garanzia, no, come qui ci sono tifosi, ho capito, sì. E non tifosi. Sì. Sì. Ma che ma quando hanno arrestato Toni, sì. Penso che lo possano confermare, sì. Di cosa si parlava. Ah, beh, ma certo, beh, certo, è stata una città sotto shock, ma certo, una città sotto shock. Ma certo, certo. Altro che quello che viene in regione, dice. È molto più grave. Chi se ne frega. Vabbè, comunque devo dire una cosa che riguarda sempre il calcio e poi chiudiamo. Sono uscite delle voci su quello che avrebbe detto questo ragazzo della Fiorentina ieri all'allenatore della Fiorentina. È uno dei casi di cui si parla più in assoluto. Io ho attaccato molto Delio Rossi per quello che ha fatto, come tutta Italia naturalmente, però sembra che questo ragazzo che si chiama Liaic abbia detto: sei peggio di tuo figlio handicappato, una delle frasi che è uscita fuori. Questo adesso mi porterebbe anche un po' a rivedere, ma insomma questo vedremo, l'atteggiamento che ha avuto l'allenatore della Fiorentina ieri sera. Però devo chiedere ancora una cosa che riguarda però la Lega, la ricandidatura di Bossi. Sì. Belotti, mi dica, lei che è maroniano, mi dica la verità, un po' anche calderoliano, lei ha il cuore diviso in due, da una parte l'Atalanta e il verde, da una parte Bossi, dall'altra parte Calderoni. E l'altra metà divisa in quattro? Sì. Insomma, non so come è fatto il suo cuore, però la ricandidatura di Bossi è una mezza buffonata, diciamo la verità, è una cosa farsesca. Allora, Bossi rappresenta la Lega. Vabbè, è questo. Però io stavo dicendo prima, è un movimento comunque che... di energico movimento veramente anche di piazza, sì, cioè sì. Guidarlo non lo puoi fare da salone, non può farlo uno malato, deve esserci una guida non può energica però diciamo la verità, Bossi non è malato, una guida energica. Bossi è malato, quindi, non può guidare la Bossi, Lega. Bossi si è prefissato una cosa in questo momento: tenere unito il movimento, sì. Tenere unita la sua creatura, d'accordo. Che altrimenti vedrebbe però... sfumare. Quindi io sono convinto che nel momento in cui dovesse capire che la sua ricandidatura sì. Porta a una spaccatura ma del già, movimento, ma già è spaccato il movimento. Tosi ha detto che non è inopportuna. Altri, lo stesso sindaco di Varese, Fontana. Nel momento in cui lui, cioè già adesso, non nel momento in cui adesso, se dovesse accorgere, io sono convinto che farà un passo indietro. Lui è fondamentale per tenere sì. Unito il movimento. Bah. Serve una guida, secondo me, più energica, e potrebbe essere Maroni. Ecco, ma lui non può, la Lega non può prescindere da Umberto Bossi. Vabbè, allora, questa è una frase di, come dire, che dicono tutti. Così, un dicono po' per... tutti, se lo dicono tutti vuol dire che è così. Ma no, lo dicono tutti un po' perché non si può rinnegare il padre, come rinnegare il proprio genitore. Come insomma. Repubblica che rinnega. Che dice lei, Feltri, su questo? No, io non sono d'accordo con l'assessore Belotti, perché mi sembra che Doni lo tratti in un modo e tratta diversamente Bossi. Qui siamo invece sullo stesso piano. Non capisco perché deve dimenticare i gol di Doni, il quale è il giocatore dell'Atalanta che ha segnato di più. Quindi non si può dimenticare anche le cose buone che ha fatto questo grande giocatore, no, e ricordarlo solo per le malefatte. Questo no, non va bene. Come sarebbe scorretto dimenticare che Bossi è stato il fondatore della Lega, ma sta diventando anche l'affondatore della Lega. Questa è la verità. Poi l'affondatore, un po' è l'affondatore. No, lui non è l'affondatore, l'affondatore è chi gli sta vicino, purtroppo. Sì, però questa storia, è incapace di intendere di volere. No, allora, dobbiamo tenere presente anche la questione umana. Qui abbiamo una persona. Ma la politica non è fatta di queste cose. La politica è fatta da uomini, e anche gli uomini hanno dei sentimenti. Ma certo, perché però, non certo è che perché va in politica diventare cinico, anzi, devi essere ancora più sensibile. Bossi ha avuto un malore. È una persona che non è autosufficiente. Non è autosufficiente, ha un braccio paralizzato. No, autosufficiente, no. Però questo qua non è una cosa nuova. Quindi, è una cosa di oggi. Lui è cambiato moltissimo nel carattere dopo la malattia. Ma capito, ma sono 8 anni. Non avete detto niente sul fatto che non era autosufficiente fino all'altro ieri. Fino all'altro ieri andava benissimo, anche non autonomo. Scusa, allora, noi abbiamo sbagliato una cosa: nel volere troppo bene Umberto Bossi. Questo è il fatto. Cioè, quando tu vuoi troppo bene una persona, non te la senti di dirgli: guarda, caro Umberto, guarda, caro Umberto, che le persone che ti stanno più vicine ti stanno fregando. Vabbè, ma questo qua è un'altra questione. Però lui perché allora, il fatto che si vuole ricandidare gliel'ha suggerito qualcuno? Non lo so questo. Ma lei considera Bossi proprio totalmente privo di qualsiasi capacità di intendere di volere? È terribile il quadro. Cioè, questo lo dite voi. No, ma come lei ci ha detto questo è praticamente... Io ho detto che c'è un aspetto umano che va considerato. Va bene, comunque io voglio concludere in questo modo. Bossi, lei mi ha detto, è incapace fisicamente di guidare la Lega. Non può reggere un movimento come il nostro. Un movimento così energico serve una persona che... viaggia, che ci vuole bel sito, lui è molto attivo. Oppure diciamo così, ci vuole uno che ce l'ha su razzo per tornare in Albania, giusto? Ci vuole uno che ce l'ha su razzo, diciamola così. Però secondo me Bossi, se sente queste cose, Bossi se sente queste cose la bastonerebbe, perché lei sta dicendo che Bossi è Belotti. Cazzo fai? Devi ricordarti che ti ho portato io lì in Lombardia e stai sparando cazzate a quella radio della Marcegaglia. L'abbiamo presa noi la Confindustria, però. Adesso metteremo a dirigere questa radio una persona, un ragazzo bravissimo che si è laureato in Albania, era il direttore della radio. Si chiama il direttore. C'ha le carte in regola. Beh, sì, conosce anche l'albanese, Radio Albania. Sa le lingue, Stai zitto, quel coglione di Cruciani lo rimandiamo giù a Roma a fare la zanzara a Roma, pieno di zanzare a Roma. Non ci sono al nord zanzare. Ma come, no, pieno? A Milano. Stai zitto, Pierone, le abbiamo tolte tutte le zanzare. Sono anche stracomunitarie anche quelle. Arrivano dall'Albania. Però comunque vogliamo concludere in questo modo. Belotti, ritiri la candidatura, Bossi, la ritiri. Mi dica la verità, deve ritirare. No, questo è importante. Allora, no, la cosa importante è che decide, per la prima volta ci sarà un congresso vero. Sì, vabbè, ho capito, però adesso... No, è un congresso in cui i militanti decideranno. Ho capito, ma se lui si ripresenta mette anche l'imbarazzo. La ritiri Io la candidatura. Io sono convinto Sai chi deciderà? Chi deciderà? Domenica, le elezioni, la Lega prende una botta micidiale sul Bossi, collo. E Bossi, buonanotte. Noi lo sappiamo che avremo... Anche il PDL prende una botta micidiale. Lo sanno persino loro, tant'è che Berlusconi è già scappato in Russia. Come Russia? Sei rifugiato lì? Da oggi. Basta, lui non ne vuole sapere. Mai, ecco, come va sempre da Putin? Perché? C'è un motivo. Saranno soci in affari. Quali affari? Ecco. Anche mignotteschi, ma non solo. Non solo. Anche il petrolio. Simpatica, non c'è dubbio. Grazie a Daniele Belotti, grazie a voi. Arrivederci, musica della Lega. Ma quale musica? Così quando la Marcegaglia pubblicità, è macchina... poi Vittorio Feltri con noi, ascoltatori. A tra poco. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara in diretta da Bergamo. Ascoltatori, qualche ascoltatore che è rimasto appeso da qualche tempo, domandiamo Antonella, la signora Antonella da Brescia, buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Ascolto il mio intervento e esula un po' dagli argomenti che avete affrontato fino a lei adesso. Lei può dire quello che vuole. No, volevo semplicemente porre questa domanda a lei, che mi piace moltissimo, ha un'intelligenza raffinata. No, ma adesso raffinata, mi sembra esagerata. Il problema dell'omofobia, che per carità è un problema, ci mancherebbe il fatto di non parlare. Ma io non cavalco nessun problema, cioè qui abbiamo due ore e mezzo di trasmissione, ogni tanto parliamo di omosessuali, che io ogni tanto, tra l'altro mi permetto anche, siccome sono libero, di dire froci, che non è un'offesa per nessuno, sono amico di un sacco di persone, Grillini è un mio carissimo amico, me ne frego, però a me il politicamente corretto non mi piace, ogni tanto si possono chiamare anche froci, non c'è niente di strano. Io non però lo dico in maniera offensiva. Dirle, guardi, come donna, cioè perché comunque non parlare, c'è molto silenzio intorno purtroppo a questo argomento, che invece viene sempre sollevato dalle donne, me compresa, e questo mi dispiace, perché vorrei invece la solidarietà degli uomini, perché è necessaria. Cioè parliamo un po' di più di tutte cosa? Quelle donne, giovani, giovanissime, ammazzate ogni settimana dai loro mariti, compagni, fidanzati. Guardi, Antonella, è un gravissimo problema, però se io la sera mi metto a parlare delle donne ammazzate così, la gente fa così sulla cosa, tac, e cambia stazione dopo due secondi, perché giustamente sono cose drammatiche che possono andare alla Vita in Diretta, programmi stupendi, meravigliosi, Porta a Porta, Porta a Porta un po' di meno, però comunque insomma sono quelli i programmi, dunque sì, bisogna parlarne, certo, ma guardi che se ne parla, non è che in Italia si parla di qualsiasi cosa, cioè non è, in Italia non c'è nulla di cui non si parla. Quando le persone chiamano alla radio e dicono ma di questo non si parla mai, non è mai vero, cioè si parla ovunque di qualsiasi cosa. È il paese più libero, dove esistono più talk show televisivi, più giornali, di tutto si parla, di web, sono delle discussioni pazzesche, cioè per cui la maggior parte delle persone chiama e dice no, non si parla di questo, non è vero, cioè si parla di tutto, ma lo sapete che Vittorio Feltri una volta è stato addirittura accusato e condannato per omofobia, è vero? No, condannato. A pagare un po' di soldi. ho pagato 60.000 euro non più tardi della scorsa settimana. Ah, dolore pazzesco. Ma fra l'altro io non ho parlato di omosessuali, niente. Io mi sono semplicemente limitato a commentare il discorso di un parlamentare italiano, il quale faceva l'elogio del disertore. Sì. Allora io in una rubrica satirica, che è poi il su Odeon TV, scherzando ovviamente in una rubrica. Come facciamo noi, ho detto che probabilmente a questo signore piacevano i disertori perché fuggendo mostravano le terga. Ora il giudice che mi ha condannato civile non sa neanche che terga vuole dire spalle, certo, e non culo. Ah, perché tu non intendevi culo in realtà, di terga c'è cioè ho detto certo. Terga per evitare la querela, la querela. Conosco i dato che ne hai sul corpo, ne hai ricevute sul ne ho ricevute parecchie, sono stato condannato lo stesso, 60.000 euro, devo dire che sono un po' seccato, è possibile. Ma è vero che le hanno dato a seguito di questo episodio la tessera onoraria dell'Arcigay, direttore? No, ho chiesto io l'iscrizione all'Arcigay intanto per solidarietà con i froci. Sì, ecco, giusto per dire le cose. Perché come io non ho niente, a me non ognuno fa quello che vuole, se uno gode così, cioè, io non ho nulla in contrario. Io ho i miei metodi diversi, ma non credo che siano migliori, sono i miei e mi diverto. Metodi, bella la parola metodi. Metodi, sì. Schemi. Non c'è più Belotti, altrimenti apprezzeremo. Ma esistono anche schemi, li scrivi gli schemi, no? No, gli schemi no. Ce li ha ormai a mente. Li studio alla lavagna, come usa nel calcio. Insomma, purtroppo... No, non c'è niente contro... Non è niente. Cioè, io voglio scrivere, perché se mi iscrivo all'Arcigay, è chiaro che nessuno mi può più accusare di essere omofobo. Quindi, è come la patente... Io ho la tessera. Quella cosa là, quello sketch di cose, te lo ricordi? Fra l'altro, mi hanno detto che accetteranno la mia iscrizione. È una cosa pazzesca. Non è che deve portare delle prove. Qualcuno vuole iscriversi... Così. Ma non è che poi lei arriva lì e le chiedo adesso direttore però ci faccia vedere, no, ma se davvero... detto che non c'è l'esame. Non c'è l'esame. Anche questa sarà considerata una battuta mezza omofoba. Sì. Nella follia italiana. 20:17, traffico, poi torniamo con Vittorio Feltri. Grazie ancora a Bergamo, ci sono tante persone qui in diretta alla Zanzara per questo tour meraviglioso che purtroppo la settimana prossima si concluderà in quel di Torino. No. Sì, voglio restare tumulato nella sede di Radio 24 per i prossimi 4 mesi, tumulato dentro gli studi di Milano. Siamo a Torino la settimana prossima? Siamo a Torino. Amici della Notav, venite a trovarci. Siete così pacifici, perché io e Cruciani siamo a favore della Notav, della TAV, non della Notav, siamo della TAV, e anche a seguito di questo Non hai paura del treno? No, anzi, no, io voglio un treno velocissimo, proprio che corre da nord a sud, est, un treno Dove ci sono da fare tunnel, dove c'è da velocizzare, io sono sempre d'accordo, in linea di principio, dove ci sono da fare ponti, cose moderne. Sai che a Bergamo sono tutti incazzati perché? C'erano dei treni meravigliosi che andavano uno in Valle Brembana e uno in Valle Seriana, glieli hanno tolti. Signor Moretti. Qui sono incazzati perché vogliono i treni, mentre dall'altra parte sono incazzati perché non lo vuole. Perché puoi fare? Allora, ma le intercettazioni di Berlusconi le sentite di questi giorni sul Sito di Repubblica oppure non te ne frega niente? No, le sento perché sono divertentissime. Appunto. Visto che hanno chiuso il derby, non c'è più cabaret, mi sento questa roba e penso che avremo nostalgia, perché se Berlusconi rimane in Russia, come faremo? Ma perché lì non fanno intercettazioni. Io penso allo stipendio. Lì le intercettazioni niente, Dove? In Russia là. Ma lì le sconsigliano. Se no te sparano lì, se... che paese serio quello, certo. Però ecco la più bella, quella che ti è rimasta più impressa, a me mi è rimasto spesso Love of My Life. Tu a te non ti hanno mai chiamato Love of My Life, amore della mia vita? La facciamo risentire, no, questa mi manca, per Dio. Questa è bellissima, questa è una cosa pazzesca. Facciamo risentire Love of My Life, Berlusconi in esclusiva. C'è la Berlusconi che chiama la signora Minetti e la Minetti si rivolge a Berlusconi in questo modo. Milano, prego. Pronto? Love of My Life. Allora. Alto livello qua, Love of My Life. A me piace Cattivone, facciamogli sentire anche Cattivone. Però Cattivone è quello che dice, io non mi ricordo più. La Polanco, è meravigliosa anche questa. Ce l'abbiamo Milano? Cattivone ce l'abbiamo? Mi metti proprio di buon umore, voglio mettere nel telefonino io questa come suoneria. Ma questa è buona, eh? Voglio metterla proprio come suoneria. È una buona idea. O metto un comizio di Borghezio come suoneria del telefonino, oppure questa di Cattivone. Sentiamo? Cattivone Milano. Milano, vai. Amore. Cattivone. No, ma non sei cattivone, sei cattivissimo. Senti, che rapporto ha con le... Cioè, è un rapporto, come dire, completo. Tu la conosci bene, non da quel punto di vista, perché non l'hai mai frequentato. Tu non sei mai andato a una famosa cena elegante di Arcore, Vittorio? A qualche cena sono stato, ma purtroppo di eleganza ne ho vista poca. Addirittura. Poca. E devo dire che queste telefonate sono istigazione alla fornicazione più che reperti giudiziari. Cioè, in che senso istigazione? La voce di questa. Di queste donne sono. Sì. Cioè. Mi sembrano quei filmini pornografici che più o meno l'eloquio è quello, anche il livello. Ma io non ho niente con Berlusconi, se non altro le mignotte se le pagava almeno con questo, i soldi suoi. Almeno questo. Non so, Luigi. Il processo è una buffonata pazzesca. Cioè, mettere sotto processo le abitudini sessuali di Berlusconi. No, questo sicuramente. Però è diciamo così, tutto questo serve per misurare. Non solo la temperatura italiana, ma anche il livello mentale di chi la guida, cioè dei giudici. Cioè, era un po' disturbato. Tutti i protagonisti, diciamo quelli che hanno agito col segno più e quelli che hanno agito col segno meno. Fa ridere, insomma, anche queste telefonate di Berlusconi fanno ridere o no? Se le avessi fatte io sarei imbarazzatissimo, forse ne ho fatte di peggio, però non essendo presidente del Consiglio me lo posso permettere. Sì, assolutamente. Dunque un po' aveva ragione Veronica quando diceva che era... Veronica ha sempre torto, perché anch'io ho litigato tante volte con mia moglie, ma non ho mai mandato una lettera all'Eco di Bergamo. Magari una lettera all'avvocato, ma invece la signora Veronica ogni volta che si incazzava col marito mandava una lettera alla Repubblica. Non mi sembra chic. È inelegante, c'ha ragione il direttore. Però quando tu dici non sei mai stato sei stato a diverse cene ma non hai mai trovato nulla di elegante, perché? Sì. No, non di elegante nel senso che erano vestiti male, No, non vabbè, intendo no. Questo. Però non hai trovato delle signorine, diciamo, come quelle che poi vedo. Per esempio la Minetti io non l'ho mai trovata. Ma perché è elegante la Minetti, no? No, però viene, diciamo, tu l'hai vista la mia? Sì, come no? Elegante, dice il direttore, nel senso berlusconiano del termine. Se non la vuoi definire elegante, a me va anche bene, però non è che passi inosservato. No, assolutamente. Meglio lei di Fede. Beh sì, assolutamente. Comunque mi sembra evidente, perché nessuno lo vuole dire fino in fondo, però Fetti lo so che lo può dire fino in fondo. Perché la Minetti è lì al Consiglio regionale? Diciamola tutta, perché fino in fondo. Perché? È simpatica, è carina, generosa. Generosa, molto. Sì. Generosa. E poi evidentemente piaceva al capo, e da che mondo è mondo le donne del capo fanno carriera. Però lì è stato un errore clamoroso. Quanto c'è stato nel bunga bunga nella caduta di Berlusconi? Ma ci fosse solo la Minetti, insomma. Lì il problema era la quantità. E la quantità che è industriale. Direi quasi fordista, no, direttore? Quasi fordista. Sì, c'era una catena di montaggio, tant'è che poi le aveva radunate tutte nel medesimo palazzo, ma lui lo fa per risparmiare. Io lo conosco. Da bravo imprenditore. Ma lo sai che dicono che in realtà una delle poche persone con cui Berlusconi ha un rapporto di timore è Vittorio Feltri. Credo. Ci confermi questa cosa, direttore? No, semplicemente gli sto sulle palle. Ah, così? Sì. E perché? Sono antipatico. Io non ho il dono della simpatia. Quando, per esempio, ci dico mi è capitato di ascoltare alcune sue barzellette, mi si legge in faccia che dopo 3 minuti non ne posso più. Invece c'è una marea di vecchini intorno che ridono, anche se hanno udito le medesime barzellette per 1.200-1.300 volte, ma ridono ancora e sguaiatamente per compiacere il capo. Io non riesco a ridere, intanto perché le conosco, poi non amo particolarmente le barzellette, e infine vedere questa scena di gente che potrebbe farne a meno, che per compiacere il capo ride davanti a barzellette che fanno piangere, mi mette una malinconia atroce. Ma se lei dovesse scegliere, vado a cena con Berlusconi o con Di Pietro? Con chi va a cena? È più divertente? Sicuramente con Di Pietro, che è un mio amico. È mio amico, abbiamo litigato 1000 volte, però. Anche in tribunale? Anche in tribunale, e ha vinto sempre lui, naturalmente. Lo avete mai visto un magistrato perdere i tribunali. Questo, io ho sempre perso. Si dice che con i soldi del giornale, non con i soldi di Feltri o degli altri giornali in cui ha lavorato Feltri, Di Pietro in realtà tutte queste, insomma, si sia fatto ricco. Cioè, non vera... solo con quelli, credo, dei giornali, perché i giornali non sono poi così ricchi come si dice. Delle cause, insomma. Credo che Di Pietro abbia trovato anche altri modi. Dice, cioè, la storia, diciamo, del finanziamento pubblico. Beh, certo. I partiti non è che siano, sì, poverissimi. No, certo. Ma io non voglio dire neanche mezza parola contro Di Pietro, anzi, ripeto, bravissimo. È il suo amico, Di Pietro, addirittura. Mio amico, sì. Mio amico. Ma vi siete mai visti a cena? L'ho visto due domeniche fa qui a Bergamo, alla Marianna, a cena, ci siamo abbracciati, salutati. Un tetto a tetto. No, l'ho visto a cena. Non è andato a cena con Di Pietro, amico, un delitto. No, lo so, ma ero al ristorante, è arrivato lui. Con la moglie, io ero con i fatti, per i fatti miei, e ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, a parte che è stato anche male recentemente, sì, certo. Cuore, io sì. Durante la malattia mi sono interessato alle sue condizioni di salute, ma non per piaggerina, no. perché lo stima, è stato un grande poliziotto, un grandissimo magistrato inquirente, politico, che ha commesso degli sbagli come tutti, ma in ogni caso quello che ha fatto Di Pietro non l'ha fatto nessun altro magistrato. E in politica invece il voto? Beh, uno che riesce a fare un partito dal niente lo tiene ancora in vita. E lo tiene ancora in vita, e mi pare che viaggi sull'8-9%, diciamo che va stimato per questo. Poi ma lo voterebbe lei? Ma io no, no, io penso che voterò, come si chiama, sì, quello lì, quel comico? Grillo. No, veramente? Sì, sì. No, da questa, davvero? Questa è sorpresona. Ci sta pigliando per il guru lei. Beh, se no che sarei qui a fare. No, questa sarebbe uno scoop bellissimo, immagino, cioè, già... voterò Grillo a queste elezioni. Grillo è simpatico, sì, racconta le barzellette, le racconta meglio di Berlusconi. Di Berlusconi. Sì. Certo che prendersela poi con Grillo mi sembra ridicolo. Questo è vero, è ridicolo. Potrei votare Grillo, quindi possiamo dire così. Vittorio, sì, Feltri, potrei votare Grillo. No, perché tu, Grillo. Perché tu non voti Grillo? No, io ancora. Ma come non voti Grillo? No, io voto. Basta, me ne vado, scusa. Io per la prima volta non voto Grillo. No, no. Perché Grillo, se lo voti tu mi fai venire l'alimentazione. Riportarci nelle caverne, il suo programma politico. È vero. Abolire la luce elettrica, sì, abolire i treni. Via la moneta. Divertentissimo, sì, insomma. Sì. Flintstone. Sì, ma quante volte ha votato per la Lega lei? Insomma, io piuttosto che vedere Monti a Palazzo Chigi preferisco Grillo. Ma lei è un leghista deluso, perché molte volte Vittorio Feltri ha votato Lega, Ho votato qualche volta Lega, ho votato PDL, ho votato PS, PD? Praticamente li ho votati tutti. A sinistra, DC. Anche DC una volta. PC mai? Beh, no. Adesso non mi offendo. Ma oggi Berlusconi, il PDL è imbotabile, mi dica, è imbotabile il PDL. PDL è imbarazzante, poi non sai dove vanno, però ho sentito dire proprio prima di venire. Diciamo, dato non ci siete nessuno. Che in questi giorni il PDL manda a casa Monti. No, non ci credo. Non hanno la forza, non manda a casa Monti, diciamo. No. Ma non sono pronti. Oppure Monti se ne va da solo. Ecco, questo forse. Ecco, i super tecnici chiamati dai tecnici che fanno la super cazzola della cosa. Della... Cioè, a quel punto meglio Cicchitto, no? No, ma ho saputo che Bondi, sì, ha chiamato Sandro. Bondi Sandro tecnico, non c'è più, Enrico. Tecnico. Ha già chiamato un altro tecnico che gli dia una mano perché lui ha guardato i bilanci, non ha capito niente. Secondo me è il titolo domani del giornale, secondo me. Sì. Bondi chiama un altro tecnico, sì. E ha come tecnico ha chiamato un altro Bondi che è Sandro. Questo sarebbe il massimo della vita. Bondi al quadrato. Ma comunque il PDL è imbotabile, diciamo. È imbotabile. Oggi è imbotabile. No, ci sono alcune persone del PDL, tu lo sai, che io stimo, sì, e quindi le voterei volentieri. Non sono però qui nel No, ma soprattutto non sono protagonisti, zona, come dire, no? Magari lo diventeranno. Speriamo. Vabbè, allora, no, io volevo capire però altri 5 minuti che voglio strappare. Direttore... 20:35 deadline. Sì, 20:35. Ma lei ha mandato il suo curriculum, il suo curriculum vitae a Mario Monti per caso? Perché Santoro l'ha fatto per la Rai, no? Luigi Battista. Perché lei non lo farebbe direttore già alla Rai? Non vorrebbe. Ma farlo. Sono fuori età io. Ormai. Beh, guardi che la Rai. Sarebbe bello, Vittorio Feltri, direttore generale della Rai. Cosa farebbe come prima? No, a me azione? Piacerebbe fare il presidente. Ah, ecco. Perché il presidente non fa un cazzo. Pubblicità! Eccoci qui, sono le 20:34, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara in diretta da Bergamo. Purtroppo abbiamo solo mezz'ora, che dobbiamo fare? Abbiamo solo mezz'ora. E purtroppo non esiste il video, ma solo l'audio. Adesso come al solito. E poi vi spieghiamo perché. Ma qui siamo alla radio, siamo alla radio, non si può vedere. Questa sera non c'è TGCom 24. Siamo a Bergamo. Volevo farvi vedere una cosa tra un po'. Vabbè, perché è sempre così. Appena vede, siccome non è abituata, appena vede una bella donna, okay, si emoziona, fa così, straparla. Mentre Petri è tranquillo, sì, non è ha, abituato. Non, non ha nemmeno visto. Faccia lei, direttore. Allora, abbiamo con noi innanzitutto, sì, perché ci stanno ascoltando via radio, soprattutto, sì, Elena Morali. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, showgirl, posso dire così? Addirittura, grazie. Beh, che devo dire? Beh, addirittura, grazie, una cosa, intellettuale, non credo. Meglio per lei, no? Non è che diciamo lei intellettuale è tipo Angelo Pane Bianco, diciamo. Ma per fortuna, ma per fortuna, perché sennò che, conosciute soprattutto, sì, però adesso non voglio, sì, per carità. Per la pupa e il secchione. Sì, anche, però per essere stata una delle fidanzate. Sì. Ahimè. Perché ahimè? Come? Così, perché pure lei lo una tratta, delle fidanzate, diciamo tutto, di Renzo Bossi. Di Renzo Bossi. Perché dici ahimè, scusi? No, ahimè, perché comunque non è mai bello essere ricordate perché sia la ex di qualcuno, non per altro. Però devo dire la verità, Feltri, in questo caso Renzo Bossi era sulla strada di Berlusconi, sì, diciamo, prima di crollare così. Era sulla buona strada. Era sulla, sì, buona, sì, strada. Sì, sì. Perché non capisco perché, non mica, sì, adesso non è un'offesa, però perché Renzo Bossi si è messo sempre con showgirl, cantanti, cioè una normale? Ma me lo sto chiedendo anch'io, perché la sua ultima è un'altra, mi sembra, showgirl, attrice, esatto, okay, se non sbaglio. Non lo so. Ma adesso chiede... che vuol fare il muratore, vedrai che cambia. Ah, è vero, sì, è vero. No, la cosa più eccezionale di quella roba lì era il muratore, voglio, sì, fare il muratore e il contadino. Il contadino, però non perché così, per... Per perché fare... non l'ha mai fatto? No, per stare, questo sicuro, per stare un po' all'aria aperta, perché sono mestieri così, ha detto. Sì. Questa è la, la spiegazione. È meglio quello dell'altro. Sì. L'hanno, ma lei chiusa, ci crede, troppo in camera. L'hanno chiusa troppo in camera quando era piccola. In camera da letto, dice. Sì. Cioè, mi spieghi questa, sì, cosa? Che significa l'hanno chiusa troppo, no, in camera? Che stava troppo in famiglia, secondo me. Allora adesso vuole stare un po' di più all'aria aperta. Ah, vuole scappare. Ah, era represso. Era. Però non mi pare che stesse troppo in famiglia, scusi, a vedere già che. No, vabbè, ma abitava in famiglia. Abitava, e questo è stato un problema tra di voi. Un pochino. Ma tra un di voi avete mai parlato dei costi standard del federalismo, ad esempio, quando eravate lì? No, perché ridete? No, non lo so, no? Cioè, no, i decreti attuativi sul federalismo? Assolutamente no, anche mai, perché no. A me quanto costa una mammografia a Bergamo e quanto costa a Racalmuto, ad esempio? Non vi siete mai posti in questo problema? Per voi? Fortuna la mammografia non la devo ancora fare. Vabbè, adesso no, questa è la risposta, però. No. È quello, no, non parlavate mai dei costi standard del federalismo? Questo possiamo dare... non ne parlava con me, poi non, sì, so se ne parlasse con, no, qualcun, cioè, altro. Non vi siete mai interessati, che so, al Parlamento padano, come funziona, no, queste cose qui, mai? Io no, lui parlava spesso, sì, di tutti, sì, i valori e le cose portate avanti appunto dalla Lega, certo, da suo padre. Certo. Ma c'era appunto perché vi siete lasciati adesso poi, fine, sì, perché poi c'è la domanda del direttore, la domanda, sì, del... Poi domandona, di domandona di abituato naturalmente a intervistare soprattutto politici, di primissimo, cioè, livello. E infatti. Stasera l'è capitato a me, però. Beh, però. No, sono molto contento. La ringrazio. No, ci siamo lasciati perché mancava la fiducia e poi, sì, perché a 20 come, anni. Come quello, però, la fiducia no. La fiducia no. La fiducia no. Cioè, in che senso? La fiducia sono quelle che i governi ogni tanto hanno? Assolutamente, hanno. Fin lì. No, mancava la fiducia sia da parte mia che da parte, sì, sua. Sì. Perché, cioè, cosa l'aveva detto? Che era potentissimo, che era un portento, poi, no, invece ha scoperto. No, no, no, più che altro al padre non andava a genio il fatto che uscisse con una ragazza che aveva comunque fatto un reality. Ah, per colpa di Umberto? Diciamo che non è per colpa sua, però ha influito in qualche ha modo. Ha influito. E quindi Trota è andato in minoranza. Assolutamente, perciò è finita la situazione. Va bene, allora 800 24 00 24, qualche ascoltatore è rimasto lì. Franco da Cosenza, buonasera, che vuole parlare, credo, da quello che leggo, della laurea. Ma lei sapeva che era laureato in Albania? Ma no, io sapevo che andava a Londra a studiare, infatti. Beh, oggi Londra, diciamo, Londra Durazzo, c'è una bella differenza, in effetti. Ma lei sapeva che era, lei sapeva di Londra? No, ma addirittura poi è spuntata fuori l'Albania. Ho letto oggi che si è preso la laurea, se non sbaglio, è stata emessa il 29 settembre, sì, del 2010, sì. Voi stavate insieme? Sì, sì. Io tutta sta cosa non, però, la sapevo. Scusi, signora Malari, io però devo dire una cosa. Secondo me questa famosa laurea in Albania non è che c'è stato bisogno di andare a Durazzo. Cioè, no. Queste sono cose che si fanno un po' così, insomma, no? Anche, no, in Italia? Su un gommone, ma no, ma passano così, le carte passano, arrivano. Perché secondo lei ha sostenuto... So. Lei è mai andata a vedere un esame sostenuto dal suo fidanzato? No, no, mai. A Londra non sono, non mai ho mai visto un esame. No, il libretto universitario, l'ha visto il libretto universitario? Ma non glielo chiedevo, però no, non l'ho mai visto. Non l'ha mai visto. Andavo a fiducia. Esisteva questa cosa? Non esisteva. Ma in teoria esisteva. In teoria. però sempre in teoria. Tutto in teoria. Allora, intanto l'ascoltatore giustamente se n'è andato. Ma c'è la domanda del direttore Feltri. Sì, ma sì, Feltri. Importante questa domanda. No, io più che una domanda vorrei fare una proposta. Non siete più fidanzati? Assolutamente. È un peccato, no. Perché se foste ancora fidanzati, io farei questa proposta al Trota. Sì. Io gli do la mia laurea, che è buona, e lui mi scusi e mi dà la fidanzata. Perché poi questa ossessione è troppo, no? Voglio dire, direttore, no, assolutamente direttore, mica sì, sta ossessione della laurea è una roba un po' da parvenu, no? Diciamocela chiaramente. Perché i leghisti a un certo punto hanno avuto questa ossessione del pezzo di carta, Feltri? Cioè, quando lei ha conosciuto i leghisti, oggi ho letto su un giornale una frase molto bella addirittura di Giorgio Bocca del 93, figuriamo come consideravi i leghisti. Giorgio Bocca del 93 era anche un affascinato dalla Lega, è stato uno dei primi, e diceva: questi sono borghesi, anglofoni, addirittura un po' anglosassoni, liberisti. Beh, guardano più all'individuo piuttosto che alla, no, al resto della società, e frasi del 93, invece sono ridotte agli strapuntini nei consigli di amministrazione, alle lauree taroccate. Ma di che parliamo? I Lingotti, ma è una diamanti, cioè è una cosa pazzesca. La casa ristrutturata con i soldi del partito. Io però di tutto questo non ho mai visto mai niente. Sarò stata un po' sfortunata. No, lei non lei ha visto proprio zero diamanti. Qualche regalo l'ha fatto? Qualcosina. Neanche una laurea, niente. Neanche quella. Ma che le regalo? Che le ha regalato? Una borsa. Una borsa da... Solo una borsa. How much? Una borsa che sono scritto Padania, magari. Roba pacchianissima, dai. Mi era tirata in testa. Ho scritto direttamente vota Renzo. Ma veramente? No, sto scherzando. Ah, ecco, no, ci si può aspettare di tutto lì dentro, No. Cioè. Per cui, cioè, voglio dire, lei è un po' deluso perché dalla Lega. Sono uno che ha votato Lega e che sono deluso. Chiunque, non solamente chi ha votato Lega, è rimasto quantomeno stupefatto di fronte alla scoperta, che poi era una scoperta dell'acqua calda, che la Lega è un partito come tutti gli altri, dove, diciamo, i soldi hanno una certa prevalenza. Ah, sì. No? Così mi sembra di aver intuito questo, non so se forse mi sbaglio. Probabilmente hanno cominciato anche dopo a rubare rispetto agli altri, quindi lo hanno fatto in maniera più abborracciata. E quindi, se uno non è ruba ma non è capace di rubare, non va assolto, va condannato al doppio della pena. Perché allora, vedi, uno disonesto magari riesce anche a tornare indietro, no? A diventare onesto, ma un cretino è difficile, muore cretino. Senta, signora Morali, io volevo capire questo: che cos'è che l'ha colpita esattamente di Renzo Bossi? Cioè lei sarebbe mai stata con un muratore o con un agricoltore? Lui dice che vuole fare il muratore o l'agricoltore. Cioè, lei sarebbe mai stata con un muratore? Io ho avuto un fidanzato muratore. Oh, finalmente. Quando ero più piccolina. Non si è fatta mancare niente. Niente, ho visto. Assolutamente. Mi ha colpito. Ecco, cos'è che l'ha colpito? Ma la sua sensibilità. Lui si è innamorato subito. Dicono tutti così. Dicono tutti così, è vero. Infatti mi sa che non lo era. Ma come vi siete cercati? Poi dico, a me non mi era mai capitato. Ma so che questa è una domanda che però in questo momento, guarda, gliela faccio, perché tutti se la stanno facendo e quindi io sono obbligato a fargliela. Tutti chi? Perché sono anche convinto. Anche quel signore lì con i baffi, sicuramente che simile ad Alema se la sta facendo. Allora, voglio capire questo. Com'era il signor Renzo Bossi nei momenti... Bisogna farla, cioè, perché quella domanda è dell'intimità. Addirittura. Ve la state facendo tutti o no? Alzate le mani, sì o no? Guarda, cioè, sondaggio alla Mannheimer. Siccome ha avuto sempre belle donne, se la stanno facendo tutti. Evidentemente, insomma. Sì, evidentemente ci sa fare. È passionale. È passionale. A letto ci sa fare, sì o no? Ah, insomma, non si può dire, sono segreti quelli. Ma che segreti? Che segreti? Però, qui siamo aperti. Sarebbero ancora insieme. Questo è interessante. Questo è interessante, sì. Cioè, per cui uno dei motivi per cui vi siete lasciati è anche... No. Il sesso non c'entra. Forse vi ha frenato il fatto... Cioè, il sesso quant'era? Da 1 a 10, quant'era il sesso con Renzo Bosco? Quanto questo contava buono, nel rapporto, sì, sì. Oddio. Sempre Radio 24, da Confindustria. Sempre. Sì. No, siamo in diretta sulla radio molto seria, non è che radio bubù. Assolutamente. Da 1 a 10. Per me non conta tanto. Il sesso no. No, me ne vado. Ma veramente? Me ne vado. Sono dopo, veramente. Dopo questo me ne vado. Io mi candido! Perché ridete a questa stronzata? No, senta, sì. Se dobbiamo salutare il direttore, volevo capire, sì. Ma io voglio capire, voglio capire da Feltri, però una cosa, adesso al 44 ti lascio, quando questo qua fa 40, ecco qua, siamo. Allora un minuto, 45, al 45 ti lascio, allora la... Voglio capire, la trasmissione televisiva in cui vai più volentieri, da nessuna parte lo so, però per esempio Santoro come lo consideri? Sì. Potrebbe fare il direttore generale Rai? Ma Santoro ha già fatto tutto, perché non dovrebbe poter fare il direttore generale? Tanto in quel casino lì va bene chiunque. Vabbè, no? Non è solo. Cioè, è un bordello la Rai ormai, cos'è? Ma cosa faresti tu direttore se fossi, se avessi in mano la bacchetta magica o come alla dire? Rai. Il, la privatizzerebbe domani mattina. Che faresti mattina? Subito? Sì, e poi soprattutto... sarei molto attento al mio stipendio, cioè in che senso? Molto alto. Di alzarmelo al massimo possibile, sì. Riducendo al minimo le mie competenze, i miei doveri. Alla Rai è possibile però fare tutto questo. L'ha fatto sempre tutti, perché non dovrei farlo io. Vittorio Feltri, grazie. Però voglio sapere, il giornalista intorno a Berlusconi, quello più servile di tutti, chi è? Sì, ce ne sono tanti, quello più servile di tutti. No, io non posso rilasciare patenti così importanti. Lavorando anche per un giornale di famiglia, sì, e poi in questo periodo mi sembra che questa attività, diciamo, di servilismo sia poco praticata. Ah, ormai sai, conta più nulla. I giornalisti hanno allora una sensibilità per molto, il potere. Sì, capiscono quando si è trasferita a Monti. Come i famosi topi quando lasciano la nave. Sì. I topi anche le tope. Infatti no, ricordiamoci la Carlucci. Senta, qual è il titolo che le rimane, che ha fatto che le rimane di più nel cuore? Perché per noi, io l'ho incorniciato veramente, era il 31 dicembre e il titolo meraviglioso del giornale è stata la culona, dedicato alla signora Merkel. Però questo qua è recente, questo l'ha fatto, infatti ne ha fatti 200 milioni. Ma qual è il suo titolo a cui lei è più affezionato? Poi non l'ho fatto io questo titolo. Sallusti. Ho fatto un titolo molti anni fa all'Indipendente, De Mita, aveva fallito con la bicamerale e quindi si era dimesso. Il titolo era De Mita lascia la bicamerale, gli rimane l'attico. Questo non era male. Grazie Vittorio Ferrazzi, grazie, che deve tornare a Milano a fare il giornale. Traffico, torniamo subito, ultimo quarto d'ora della Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 22. Perché do sempre il numero di telefono? È una cosa che mi rimane in testa, che mi devo togliere. Ma anziché dare questo numero di telefono qui, diamo quello della signorina, no? Perché dare se 800? Ma perché vuole dare il numero? Ma gliene frega quello, cioè, il sarebbe telefono della signorina massacrata. Elena Morali. Ma sai quali sono i politici che... Ma lei era la pupa o il secchione in quella... un po' pupa, un po' secchione, non vedi? In realtà, intanto ti ho messo capo questa risposta, sì, no, però simpatica. Che stavo dicendo? È del segno I numeri di telefono. Ci sono dei politici che secondo me ci vogliono un po' fregare. Danni i loro numeri di telefono, è il quarto telefonino che hanno, secondo me. Uno di questi è Buonanno, poi c'è anche Barbato dell'Italia dei Valori che dà il numero di telefonino. Come secondo no? me hanno è il quinto numero di telefono che hanno, dunque lo possono dare liberamente, perché tanto non rispondono mai. Prima di tornare con Elena Morali, però io voglio ancora già fidanzata di Renzo Bossi. No, andiamo solo con Elena Morali. Senta, ma allora, l'ostacolo principale è stato Umberto. Quante volte l'ha visto Umberto lei? Ma due volte. E allora come può essere l'ostacolo principale, scusi? Perché influiva su quello che pensava. Cioè, che gli diceva lascia, di no, non lo so. Vabbè. Gli diceva che comunque non gli piacevano le fughe di notizie, non gli piaceva il fatto che si parlasse di gossip, perché lui doveva impegnarsi solo sul fattore politico. Sul fattore politico. Cioè sull'indipendenza famoso fattore della Padania. Politico. Assolutamente. Io mi sarei impegnato di più su di lei che sull'indipendenza della Padania, francamente. E invece lui passava più tempo, faceva la bella vita, facevate la bella vita, diciamo la verità. Beh, sì, rispetto a persone che hanno magari 20 anni e vanno tutto il giorno al lavoro, sì, assolutamente. Non si può dire di no. Cioè, bella vita che significa? Che comunque macchine, io... No, vacanze. Macchine no, vacanze, lui spesso sì, io quasi mai con lui. Anzi, in vacanza proprio non ci sono mai stata con lui. Ma che ha fatto? Ma quanto lui, è stata allora? Con Renzo Bossi? Uscivamo con i ragazzi di 20 anni. Sette mesi? Sette mesi, sì, poco. Sette mesi. Ah. Ma lui è traditore oppure fedele? Ma l'ammazza. No, ma chi è traditore? Spero no. Fedele, poi non so cosa ha combinato. Ha detto traditore, ammazza. No, se l'ammazzavo se fosse stato traditore. Sì. Ah, perché lei è anche gelosa? No, gelosa. Diciamo che mi piace il rispetto in una coppia. Il rispetto. Ma è ancora può dirsi ancora innamorata. Ma che innamorata? Ma che sei matto? Basta. No. E la scorta c'era, la famosa scorta. Sì, è uno dei motivi anche per cui è finito. Ma non è che uno si può lasciare perché c'è la scorta. Ma non perché c'è la scorta, non capisco, capito? Scusi, ma a te piacerebbe uscire? Ma lei lo sapeva prima che era scortato il signor Boss? No, non era scortato all'inizio. Ah, perché non era ancora consigliere regionale. Ma neanche all'inizio, quando era appena stato eletto. È iniziato dopo. Lui mi diceva che riceveva appunto delle minacce di morte a casa e perciò suo padre aveva pensato giustamente di mettere a disposizione del figlio la scorta. E a lei dava fastidio perché, cioè, il fatto di girare con questa scorta? No, più che altro perché prima che io scendessi e lo vedessi doveva arrivare la scorta, portarmi, riportarmi, bisognava sempre chiamarla, non è il non massimo. Potevate fare l'amore in macchina? Assolutamente no. Questo è terribile. Era impossibile. No, questo è terribile, sono problemi questi. Perché beh, a 20 anni, se uno è consigliere regionale, effettivamente sono problemi. Senta, ma insomma, le case, dove aveva tanta possibilità di andare, questa famosa casa a Salò? Era una casa non sua, ma di Monica Rizzo. Rizzo uguale tanto. Va bene, andiamo a Nico da Treviso, 80024, oh, Dio, ma perché dico il numero? Nico. Buonasera. Vada. Pronto? Sì. Pronto? Sì, la sento. Buonasera. Io ho telefonato l'altro giorno e stasera sono stato richiamato e vi ringrazio. Sì. Volevo semplicemente dire a Parenzo se potesse evitare di fare l'imbecille continuamente. Grazie. Che ridete? Prego? Ma in che senso, scusi, non ho capito in che senso. Non ha capito? Fallo parlare. Allora lo dico fallo meglio. Sì, fallo parlare, fallo. Pronto? Sì, sì, la sì, sento, parli, prego. Parenzo, mi sente? Purtroppo sì, dica, caro. Ecco, allora, vorrei sapere se lei potrebbe evitare di fare l'imbecille ogni sera. Non ho capito, abbiamo capito. Sì. Ci spieghi perché fa l'imbecille. Ribadisco. Se lei crede di essere ironico e spiritoso, ho paura che si stia sbagliando. D'accordo, prendiamo atto, che devo fare? Va bene, d'accordo, più di questo non ha da dire, solo questa stronzata. Prenda atto ed eviti di rompere le scatole a tutti con le sue imitazioni ridicole. E soprattutto sempre imbeccato da Cruciani, lei parla per forza persona. Ma sono qui per questo. Vabbè, caro Nico, ho telefonato per dire questo. No, l'ha fatto benissimo. Io voglio andare in vacanza con lei quest'estate, una settimana. Voglio venire in vacanza con lei per una settimana. La famosa ambulanza ormai ha rotto le scatole perché io vi ascolto sempre. Ma lei dice, essendo io già ricoverato, non serve l'ambulanza. Ci ho riso anche con la con l'ambulanza. Sì. Ma adesso non può più ridere nessuno. Non si preoccupi, che ora inventiamo la puntura, altre cose. Non si preoccupi, guardi. L'ambulanza la prenda lei. Sì. Va bene, Nico, Nico, grazie. Passi una buona serata. Un abbraccio fortissimo, Nico, grazie. Ernesto da Olbia, signor Ernesto da Olbia. Sono io. Vada. Mi dica. No, ha telefonato lei. Abbiamo pazienza. Ernesto, ma qui è l'ora dei maschi. Cioè, è l'ora alle 20. Hanno posticipato l'orario delle telefonate in convenzione. No, le volevo dire che, dato il livello culturale della Lega, mi era venuta in mente una della rima. Lega? Sì, un'altra rima. Cioè, qual è? Una rima che era sul ponte di Perati, bandiera nera e la Lega che si dispera, sulla canzone della Giulia, quella là, si ricorda? No, non mi ricordo. Non ho fatto l'alpino. Non ho fatto la faccia. Allora ne ho un'altra, che al campus di Scutari ho laureato in messo mari. Questa è buona, questa è divertente. Grazie. Poi basta. E insomma, vabbè, sul tema della Lega, la cultura ce ne sarebbero tante. Ce ne sarebbero tante. Se le prepari e poi mi scrivi una bella mail, così creiamo qualcosa, creiamo qualcosa, d'accordo? L'ultima, dica l'ultima, su. Col tutor di Valona ogni frescaccia è buona. Col tutor di Valona ogni frescaccia è buona. Questa non è male, però, Sempre sulla laurea, la famosa laurea in Albania. Di questo sono curioso, ma insomma, lei proprio non sapeva nulla di questa laurea in Albania. No, addirittura lui ogni 2 settimane andava a Londra per studiare, come diceva lui, economia aziendale. Ma allora, andava sul serio? Ci andava a Londra, poi si vede che faceva altro. Ma l'inglese lo sapeva ogni tanto? Cioè, diceva qualche parola diceva, in inglese? Diceva, sì, vabbè, diceva? Qualche parola. Tipo secessione, come diceva in inglese? No, mi sa che quella non la sapeva, se l'è persa nel vocabolario. Quale parola diceva in inglese? Non sapeva l'inglese, diciamo. Non parlavamo inglese. No, ma lui non lo sa. Una parola che l'ha mai sentito biascicare qualche parola No, dire in qualche inglese. Frase in inglese no, dire qualche parola, la dicono tutti sì, in Italia. Sì, cioè tipo... sex, tomorrow. Love of my life, più o meno sono quelle. No, lei lo chiamava devi lasciare quella Elena Morali. Perché la devo lasciare? Devi lasciarla, Renzo, devi andare a studiare a Londra, al nord. Così diceva più o meno. Quello che mi riportava lui, sì. Spero così, non dicesse qualcosa di più cattivo. Poi faceva anche qualche pennacchia davanti a lei, l'ha mai fatta? No, davanti a me mai. We want Padania freedom. Padania freedom. Grazie, grazie di essere stati con noi. Ciao, dobbiamo chiudere. Grazie alle Morali. Grazie mille a voi. A domani! A Milano, 18:30, Parenzo a Roma. Ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.